sei all'ascolto? Vieni avanti, fammi sentire questa radio. Sì, benissimo, stai uscendo. Sì, sì, alla grande, sempre agganciato, sì. Ok, perfetto. Lascia tutto così e non toccare niente. Va bene, poi ci aggiorniamo. La radio va benissimo, finalmente ti sento. Ascolta, mi pare che non arrivi a 2 la tacchetta. Mettila a 2, mi pare che sia 1,5, mettila a 2. La vedi dove c'è la barra nera? Mettila sul 2. Prova? Troppo forte. Appena appena di meno, Giuseppe. Aveva ragione Valerio, è un bel forte. Appena appena meno mettila. Va bene, va bene. Lasciala così, Giuseppe. Se lamenti è troppo forte. Madonna santa, pensavo spingesse di meno, invece spingi un bel. Lasciala così che va bene, dai. Sì, sì, lasciala così, va benissimo, la grande. Guarda che è dentro la scatola, Giuseppe. E io già avete voti. Evidentemente lo fanno in Cina. La Daifa sicuramente è cinese, non lo so. Tu che parli tante lingue, vedi di tradurlo. Se no bisogna andare su internet e vedere se c'è qualcosa in italiano di quello strumento lì. Anche il mio è in cinese. Sicuramente, capito? Sicuramente. Però no, non è che ci sia molto da. Tu lascialo così in quella posizione, intanto a te ti serve in quella posizione, Giuseppe, non è che. Capito? Chi è che mi ha chiamato? Chi è? Ma Sandro, tu sì. Certo che ti sento, Santiago 5. Già ti sento, già ti sento. Anch'io ti sento. Anche Natalino ti sente. Ascolta Natalino, guarda se senti a Giuseppe meglio di radio. Giuseppe, vieni avanti. No, non lo sento, no. È incomprensibile. No, Natalino non ti sente, ma è un problema suo, Giuseppe, capito? Figurati che ti sente Sandro da San Giovanni con l'antenna interna. Vabbè, comunque io volevo sentire la radio. La radio va benissimo, meglio di prima, molto più forte, e quindi l'importante è quello, Giuseppe, dai. Ok? Va bene, dai. Adesso vado a mangiare, vi saluto ragazzi e ci sentiamo stasera. Ciao Sandro, ciao Giuseppe, ciao Natalino e chiunque fosse sul 10. Ok, a stasera. Ciao, ciao. Ciao Giuseppe, alla grande stai andando, va benissimo, ok? Almeno la radio adesso è più forte, dai. Ci sentiamo stasera per tutti, ciao, Amusan Trenda. C'è qualcuno all'ascolto? Ci sono io. Eia Giulio, dovresti leggere messaggio WhatsApp se puoi. No, ho già detto, oh Marco, ho già ascoltato. Eia, capito il perché dell'altoparlante frontale, no? Almeno il suono arriva diretto e non va sopra, capito, verso il soffitto. Sì, beh certo, no, ma è l'estate dell'ideale, avremo sempre frontale, tanto parlante, si riceve molto meglio come modulazione, eccetera, senza dubbio. E io, di solito il baracchino c'era sotto, ad esempio io adesso sto usando questo baracchino 360 Superstar, è appoggiato sopra il comodino così, e dunque altoparlante sotto e ti sento con una modulazione ridotta. Se invece lo sollevo appena e raddoppia, come minimo raddoppia il volume della radio, ma va bene così, non è un problema, già ti ascolto ugualmente. Vedi, forse sotto l'altoparlante il discorso cambierebbe, perché poi il tavolo fa da riflessione, no? Il tavolino fa da riflessione, il suono arriverebbe bene come il baracchino, però essendo sopra, o ci metti un pezzo di carta inclinato in modo che rifletta il suono verso di te, oppure l'altoparlante frontale. Anzi, è la prima volta che metto l'altoparlante frontale su quell'apparato che ti ho detto, no? È bello, bello, suona bene anche. Ok, attenzione, torre di controllo, sei all'ascolto? Ieri ha col suo figliato, mica era di cena, sarà tornato sbronzo. Ah, lo credo assolutamente. Casomai avrà lavorato, stamattina sarà andato al lavoro e adesso sta riposando sicuramente un po'. Lavoro era, perché aveva detto che doveva pigliare delle ferie, mi pare 15 giorni o giù di lì, e ho detto che devo partissero da oggi, sai, va bene, poi le chiediamo com'è andata, come ha mangiato, dai. Ancora è presto, sono lei, aspetta, che la svegliezza l'ha imboscata, mannaggia. Le 4:04, esatte, esatte. Sì, credo che, per fine credo che ce l'abbia da lunedì, da domani, ma oggi penso che avrà fatto una ennesima domenica di lavoro. Sì, esatto, 4:04. Eia. Poi ho notato che questa sveglietta, no, che prende il segnale da Francoforte, dall'orologio atomico, il più preciso al mondo, ha cambiato alle 3 direttamente, ha messo le 2. Perché ha fatto le 2:59, anziché apparire 3, siamo apparse le 2. Tutto automatico, non bisogna toccare nulla, molto comodo mi, perché non devi regolare l'ora giusta, si regola solo. Riceve un segnale DCF 77, pare sia 77 kHz, lo sai, riceve questo segnale radio a 77 kHz dovrebbe essere, e si regola l'ora giusta in base all'orologio atomico che si trova a Francoforte. Ok, ho capito. Quindi è bello, almeno uno non ha il problema di poi di adeguare l'orario. No, io mi, anche poc'anzi, ho una delle tante sveglie che abbiamo qui a casa, anche orologi, che poi è un quadro, in pratica è un quadro, dove appunto raffigura un mazzo di fiori, tutto un quadro, nel vero senso la parola. Invece l'orologio, anche poc'anzi ho preso e ho cambiato l'orario, portandola indietro di un'ora. Poi stamattina, prima del pranzo, adeguato anche l'altro, quello della tavernetta, però quello ho dovuto anche raschiare un po' i contatti perché c'era un po' di ruggine con un pezzo di carta vetrata, ho raschiato il contatto perché la batteria non faceva contatto, ma adesso è a posto, tranquillo, per cui va bene così. E io voglio, qui abbiamo due nella sala di orologi, poi abbiamo una nella tavernetta, sempre di quella della parete, no? E poi in zona notte abbiamo la radio sveglia digitale, e poi c'è il camera della figlia, lo stesso, eccetera, eccetera. Orologi già non ne mancano qua, Napoli 2, Sassuolo 1, Eia, ma poi la Juve si scontrerà con Napoli o giù di lì? Ancora no, ancora c'è tempo, dovrà giocare, certo. Così, quando hanno fatto il girone di andata, poi tutti quanti si incontrano di nuovo per il girone di ritorno, no? Sono 38 partite, che fanno 19 partite andate e 19 al ritorno. E il campionato è lungo, a quando è giugno, a finire, maggio, metà maggio, là. Sì, è lungo, Ma sta facendo, aspetta, sta facendo quel rumore, ma sotto, spegnilo ed accendilo. Se è possibile, ma non deve fare, vabbè, scusa Giulio, che mi ero dimenticato di mollare la portante anche, ma l'abitudine al microfono da palmo. È come che stessi parlando al baracchino, visto, caspita, arriva bene, ma tu riesci a monitorare contemporaneamente due frequenze, sì? Sì che ci riesco. Tu pensa che io con quel portatilino sono in LPD e quando parlano in PMR sento lo stesso, tutti e due insieme. Mi sento tutti e due, o uno o l'altro, però lo sento. Cioè lui fa ta, PMR e LPD, PMR e LPD, così è, alternata all'ascolto. No, anche se c'è trasmissione in LPD, e se parlano in PMR sento che magari il PMR può essere più forte la stazione o più vicino, e allora sento quella. Ma è full duplex quello che è giù? Diciamo che probabilmente è regolato in duplex, adesso io non lo so perché c'è il menu, io lo hanno messo 2000 volte e non so che cosa sono riuscito a installare, ma non penso che sia così però. Il modello, puoi farmi un numero? Il numero del modello solo, senza dire il nome, la marca. Che problemi ci sono? Morphing GT3 SP sembra, sì, una cosa del genere. Scorda un colore fiancante giallo. Beh, giallo arancio, sì. No, quello non dovrebbe essere full duplex. Invece questo, vabbè, già ti ho detto cos'è, è proprio full duplex, io ricevo simultaneamente i due canali. Cioè se parlano di un canale, l'altro scende tutto assieme qua. Capito? Vabbè. E beh, ma cosa stavi facendo? Ecco, scusa. È vizio mio quello di tenere premuto il coso. Ma me lo devo togliere però. Sì, vabbè, già. Non è un problema, figurati. No, ripeto, se parlano in PNR e io sono sintonizzato nel MPT, sento lo stesso. Adesso non so se sento perché magari siamo vicino o in linea d'aria, ad esempio con Latte Dolce, no, questo non lo so. So solo che prova a parlare tu, che io in PNR un attimo, provo a fare un piccolo cenno lì, e vediamo se ti sento restando io in MPT. Sì, tu vai nelle PD in ascolto, io mando la portante PMS, ok? Ok, d'accordo. Cristo, ti sento benissimo anche. Qualche fatti in più. Vabbè, quello d'accordo. Mentre invece se parlo io in MPD tu non mi senti, vediamo. Mi senti Sì. Lo senti? L'hai sentito? Sì, arrivi. In contemporanea. No, se sei nelle PD ti senti nelle PD, se sei in PMR ti senti in PMR. Sì, questo ha la ricezione simultanea di due frequenze diverse, anche sulla stessa banda. Addirittura, se tu parlassi con due apparati diversi, uno PMR e uno LPD, e parlassi simultaneamente, io ti sentirei da tutte le due parti simultaneamente. Sì, ho capito, sì. Quello già è vero. Peccato che questa marca si ostini, almeno fino a pochi anni fa si ostinava a non mettere il passo a 6,25, lo sai, ce l'hanno i cinesi e non ce l'ha questo. Questo al passo a 5 kHz minimo, quindi devo un po' arrotondare, capito? Almeno per il PMR. 0,80 anziché 0,81.25. Ok, ho capito, sì. È tutto. Vabbè, ma comunque, essendo così vicino alla frequenza, si sente ugualmente, non è un problema. Sì, per fortuna. Invece nelle PD vabbè, la canalizzazione è quella classica. Che brutto tempo, guarda, ieri eravamo a mangiare la mia zia, abbiamo mangiato bene, ma cos'è anche semplice, ma c'era bella giornata, oggi è tutto il contrario, vento, freddo, vabbè, si possono vedere, d'altronde mi siamo a fine ottobre, tra poco arriva il novembre pure, e cominceranno a fare, secondo me hanno cominciato già a mettere roba di Natale mia, da Auchan, le macchinette, quelle cose per bambini, giocattoli, le prime cose del Natale, le alberi di Natale, le decorazioni natalizie, che poi è tutto per vendermi, alla fine è tutta una speculazione le feste, tutta una speculazione proprio per vendere. Sicuramente sì, diciamo che ho visto anche qualche pubblicità anche in TV proprio per il fatto del Natale, l'ho già intravista, così non è che mi interessa più di tanto, quando vedo queste cose io cambio subito, non me ne frega niente, ma per dire, già da giorni, però non da adesso, già da almeno una decina di giorni, almeno in TV io ho visto della pubblicità proprio relativa a quello che sarà il Natale. Figurati, con un mese e mezzo e più d'anticipo. Va bene. Per noi il Natale adesso ha assunto un significato molto diverso, dai, no? Non ci interessa più quasi, dai. Sì, ti sento io, Franco. Ciao, Franco. Ho sentito anch'io uno basso, ma Franco chi? Franco di Sassa, dai. Franco, diciamo, ombra, l'Africa. Franco, dove sei? L'hai sovramodulato, Marco, aspetta un attimo. Franco, riprendi che inavvertitamente ti ha sovramodulato, Marco. Ok. No, l'ho sentito solo quando ha fatto il break. Ho detto mi sentite e poi più niente. Ma digli dov'è, sicuramente è macchina in trasferta. Mi sembra che tu abbia Marsiglia o qualcosa del genere, in macchina è sì. Avanti Franco. Va bene, fra, d'accordo, dai, già siamo qua, non è un problema. Capito? L'ha sentito l'acqua adesso? No, è nel QRM. Come mai in macchina arriva così basso? Addirittura arriva più da te che da me, pensa. Ehi, non è normale, magari ha l'antenna piccola, non lo poi glielo chiediamo con calma, dai. Ok, ma deve essere che sta facendo delle regolazioni, dai. Ha detto di aspettare che aveva un qualcosina da superare o da regolare, qualcosa del genere. Sì, sì. E vabbè, non vuol dire niente, è sempre questa la posizione, oh Marco. Quando tu in macchina è sempre la questa posizione, anche quella, no? Verso te magari può essere più vicino, però degli ostacoli davanti magari non riesci a ascoltarlo. Ma già sei sicuro che nello squarcio è tutto azzerato il tuo Marco? Sì, sì, l'ho aperto apposta. Io lo metto sempre a filo di QRM, perché io qua non voglio sentire i fusi. Qua sembra di essere in PMR, ha capito? C'è il silenzio assoluto e poi quando parla lo sento. Non l'ho aperto, ma è proprio a basso, hai Santiago 3, in mezzo al QRM. Vabbè, quello sì, sei d'accordo, ma a volte, sai, basta che ci sia un piccolo ostacolo, se non è aperto del tutto il rosquercio, allora può essere un problema. Vabbè, dai, già riprende appena è possibile. Claudio, è meglio che svegli. Oh Giulio, è pur vero che io a Sassari, quando sono in città uso l'antenna piccola e ti assicuro che è molto piccola, è molto caricata. A parte la bobina sua c'ha un'altra elichetta, diciamo, è uguale all'antenna dei vigili urbani, è lunga 65 centimetri, è molto piccola, molto caricata. Infatti quando sono in certe zone, per esempio ad Alte Dolce non mi sentono, o viceversa sono ad Alte Dolce magari non mi sente Pomponio, capito? Invece, quando ero a Bancali, stavo usando l'antenna lunga, quella da 1,60 in macchina, capito? Per il CP sempre. Ho capito Marco. Poi tra l'altro tu usi la magnetica e c'è anche quello, che è una grossissima distorsione, perché l'antenna vorrebbe fissa a centro capota per andare bene e farsi sentire un po' dappertutto. Eia, però non mi piace a me bucare proprio, non mi piace, preferisco mettere e togliere. Non sia che te la rompano per dispetto, te gli svitino il bullone, qua tutto è possibile Giulio. A un CP a Tonio Grode gliel'avano rubata, era un'antenna piccola però buona, gliel'avano proprio svitata, ma secondo me non era un CP, non era nemmeno un CP, secondo me era fatto a sfregio proprio. Sì, beh certo, una cosa è certa, quando uscite dalla macchina dovresti sempre togliere lo stilo, perlomeno dovresti toglierlo, poi la base già rimarrebbe attaccata, quella non lo possono togliere, o quella si è svitata all'interno, ma lo stilo bisogna sempre toglierlo, perché se no te lo spezzano qualche ragazzaccio così, oppure te lo rubano, non è la prima volta che hanno fatto cose del genere. Eia, poi lui aveva detto, mi pare, che gliel'avevano rubato dall'androne interno del palazzo, quindi sicuramente era qualche giovinastro, ma anche no, può darsi che non fosse nemmeno giovane, capito? Siccome lui disturbava all'epoca forse. Qualcuno si è divertito a mollare il dado, quello che è, la farfalla e togliergliela. E ha detto che era un'ottima antenna nonostante fosse abbastanza corta. Perché c'è antenna e antenna, certe corte non servono a niente. Ne ho provato una della Midland che costava 15 euro, lunga 65, ma era uno schifo. Invece questa già ancora in città va, quella dei vigili urbani, come la chiamo io. Infatti una volta a Giulio, quando sono andato a San Francesco, a quei gradini, siccome lì c'è ambiente strano, quando ci hanno visti a me e un amico con la macchina e con quell'antenino, ho sentito e hanno detto a me che bisogna gli sbirri, mi. Oh, occhio che bisogna gli sbirri, capito? Perché come vedo l'antenna, antenna uguale sbirri, sono quelle equazioni lì, capito? Ok. Insomma è un po' scoraggiante allora per certe persone, sono quelle persone che hanno qualcosa da piangere, perché chissà, uno che pensa una cosa del genere vuol dire che è probabilmente sensato. Vabbè. Sì, però la resa, si sa, se lo corta l'antenna, per quanto buona possa essere, ma è sempre uno stilo corto e la resa è sempre così limitata. La resa è quando c'è lo stilo lungo, il lungo possibile, allora il discorso è diverso. Io mi ricordo, avevo due antenne nella macchina, che tra l'altro una si inseriva a metà, era fatta in due spizzi, in due troncuni era fatta, no? Uno attaccato alla base, poi al centro c'era un altro collegamento sempre a vite, ma quello era lungo, roba di 2,75 m lo stilo, praticamente un quarto onda, ma c'era una differenza madornale dalla solita, ad esempio, antenna che avevo da un metro in pento, una cosa del genere, con la 2,75 m, nonostante che tutte e due fossero da un quarto d'onda, ma c'era una differenza enorme, con la 2,75 era proprio quella che rendeva veramente. Scusate, perché ti devo dire adesso? Va bene, vediamo un po'. Marco, hai sentito a Franco? Ehi, a Franco, fai passaggio, fai vedere il segnale. Adesso fiabeggia 9, c'è un abisso, prima dovrebbe essere in zona d'ombra. Ascolta Franco, che antenne usi? Che antenna usi in macchina? È anche buona. Ah no, allora è da zona d'ombra per me, vedi, da Giulia arrivavi da meno. Adesso è di lusso, sta arrivando bene adesso. E la radio è molto chiara, qual è? Sempre uno dei due? Sì, è Samurai. Poc'anzi stavo scendendo da Tergo, quindi lì vi ho sentito, però nella parte bassa vi ho sentivo a Giulio un po', a te sentivo molto bene il bip. qua il bip è quello che ha il picco maggiore, per quello è. Sì, era fortissimo, poi se fosse stata anche la modulazione di risposte mi avrei copiato tranquillamente. Stavo chiedendo, hai detto che stavi scendendo da Tergo e lì mi sentivi ugualmente. Vabbè, però sono, ripeto, sempre con l'antenna bassa io, con un dipolo in verticale, perché se la metto all'altezza sua, naturale, come quando è sempre stata, si tratta di portarla su di almeno 5 o 6 metri buoni, per cui se va bene così, questa alla resa è quella che avanti fa. Ehi a Franco, noi prima ci siamo sentiti dall'altra parte e siamo passati qua. Infatti Giulio si sentirà, no? Questo è quello col trimmer aperto. Infatti guarda, basta che parli piano e vedo dei picchi notevoli, dai. Già sta uscendo bene, nessun problema, no? Vai benissimo Marco, vai benissimo. Comunque se siamo nuovi, qui da me stai arrivando, ultimo segnale, va benissimo. E comunque ti ricordi che l'abbiamo aperto anche questo lo metto al massimo come regolazione del radio per interno, Marco lì. Sì, hai fatto benissimo perché in realtà il baracchino viene limitato di fabbrica, viene limitato, ma visto che non è un omologato, io non vedo la ragione di limitarli. Ci ho notato che tutti i baracchini omologati e non hanno la LC strozzato, no? Ma c'è un baracchino, non è omologato, che senso ha limitare la modulazione? Tanto vale mettere la manetta di fabbrica, no? Esatto. Bene, e prendi il suo Giulio, dai. Ok, sì, cos'ha? Anche quello, anche quel tuo baracchino ha il PIM del VRC 12, 13, 14, quelli in franco. Prima l'uno e due per segnale perché erano proprio facili, non segnavano, dovevano essere segnati. E poi un po' di quindi da 10 l'ho portato, l'altro addirittura è arrivato a 20 di modulazione. E poi ho anche la radio, l'ho aumentata un po'. E appunto il PC, il VR1, lo so, quello lì è per lo smitter, quello sì, ma per la potenza è VR12, VR13 e VR14, sono quelli i timer per aumentare sia il watt che la LC della radio. Senti, ma io ce ne avevo scritti su questo ricambio, ho seguito le tute, poi c'era anche Alessio Bonconi, mi ha dato la mano anche lui per la regolazione, mi ascoltava, ha detto sì, metti a manetta che va tutto bene. Sì, confermo, sta andando benissimo. La radio è ottima, per cui va bene così, il segnale è altrettanto buono, non ci sono problemi, va benissimo. E io sono stesso, oggi sto usando il Superstar 360 di vecchissima data con il microfono MB+4, va bene, dai, ok, avanti Marco. Eia, io microfono normale, a me piace la saponetta così. Io preferisco prevalentemente quelli da palmo, qualcuno quelli da tavolo, dai. Io dalla barra mobile sono abituato a tenere il mic in mano, dai. Poi sai cos'è, qua mettendo quello da tavolo deve stare il bilico sul braccio del... No, il bilico non è, ma metti che io faccia una mossa così, una mossa un po' così e cade a terra. E poi si specca la vernice, sai, un peccato, è nuovo, non ha un graffio e non vorrei che si rovinasse. Invece se avessi un tavolino almeno potrei usarlo, quello da tavolo, bello, in pianta stabile, capito Giulio? Sì, ma io appunto lo uso proprio quello da tavolo perché mi è più comodo, lo faccio altro che allungare il braccio, tanto lo tengo a distanza, non c'è bisogno di metterlo vicino alla bocca e poi sa, essendo amplificato riesce a captare qualsiasi rumore, qualsiasi segnale, anche da una certa distanza, non trascurabile, insomma, ecco. Avanti Franco. No, ancora non l'abbiamo sentito, forse sta riposando, non so se stamattina stava lavorando e magari stasera sta riposando, oppure stava guardando la partita del Napoli, è probabile. Già è vero, sì, l'avevo sentito in settimana quando si era messo d'accordo, si stava mettendo d'accordo con Giuseppe che sarebbe andato a trovarlo, sì, e allora è probabile che sia lì ancora facendo questo lavoretto, niente di strano. Avanti Marco. Chi è che ha chiamato? Nessuno, non ha chiamato nessuno, stavamo dicendo che Claudio probabilmente è andato a Alghero per fare quel collegamento di quel microfono a Giuseppe. Sì, quello l'ho sentito, ma avevo sentito una vocina sotto, forse è propagazione. Poi propagazione, non è roba di qua, dai. Ehi, dove ti trovi? Io sono solo 5 watt. Bene, 9.15 e oltre anche. E anche tu quasi del 30. Eia, hai ragione. Sento una chiamata sopra, vediamo. Non ho capito da che parte però, vabbè. Vediamo se c'è Natalino all'ascolto. Natalino? Sì, sono già in zona casa. Ottimo. Arrivi quanto con l'antenna esterna, dai, con la boomerang. Perché tu vedi più forte qua, oppure sono anche più basso. Sì, la boomerang è direttiva, perché avendo quello stilo così da un lato, se non è puntato verso Marco, ad esempio, è chiaro che arriva più basso. E sarà per quel motivo lì, perché la boomerang, se è quella che ha solamente un ostino, è direttiva in una certa direzione, in altre magari un po' meno. Questo magari vedi, puoi tu se puntarlo verso il sassa di centro o perlomeno magari sassa un po' all'esterno. È una questione di momento, magari tu più una stazione verso l'altra parte non la senti, mentre invece girando l'antenna potresti sentirla, capito? Per cui ma costruiscetene una costruisciti una canna da pesca, sia a posto, guarda, tranquilla, leggera, pesa pochissimo, o non fa rumore nell'inverno quando ci soffia il vento, praticamente è quasi passa, diciamo, anche inosservata, perché essendo uno stilo solamente, e funzionano bene, guarda, funzionano bene, niente ti guai, niente di niente, proprio va benissimo, guarda. Appunto, ho fatto soldi e va bene. Oppure il sistema cavo, il sistema elettrico, te lo puoi anche ordinare direttamente. Ce n'era uno l'altro giorno in vendita di sistema, che era proprio quello originale della Grimace, proprio originalissimo. Ci voleva solamente la canna da pesca, si metteva quello ed era proprio fatto dall'assidio, perché la Grimace è fatta dall'assidio. Ma al limite, se proprio vuoi risparmiare ancora di più, te lo puoi autocostruire. Alluminio Uber Alles. Alluminio tu dici, Marco? No, io è un gusto, aspetta, io per gusto personale non mi piace la vetro resina, quelle cose lì, a me piace la mia antenna in alluminio. Anche la Game Master mezz'onda, c'è anche mezz'onda, non mi ispira, a me piace la mia antenna in alluminio. Una scelta personale, però poi può essere un'antenna che sia alta efficienza e pesante, come può essere l'auto 27 Sirio, che ormai si trova solo quella. Sì, sento qualcosa sotto, Giulio, ma non arriva oppure un'antenna resa più modesta, tipo quella che ho io, purché sia messa in alto. Vedi, Natalino purtroppo è infossato, un po' in basso, e perciò problemi con quell'antenna lì. Io qua su più in alto. Ma tu, Franco, non hai la possibilità di piazzarla sul tetto? Lo so, solo che uno, cioè, non può rinunciare ai propri diritti per fare con denti gli altri o per il quieto vivere. L'importante è non disturbare. Guarda, una volta che tu l'antenna la metti dietro le antenne TV e più in alto delle antenne TV, esci sempre con watt normali, come sto uscendo io, non disturba, non dovrebbe disturbare. Qua è tutto tranquillo, da mesi, quindi. Pensa, non devi nemmeno chiedere autorizzazione al condominio, cioè il condominio non è che ti può autorizzare o no, lo devi solo avvisare l'amministratore che devi piazzare un'antenna CP. Certo, poi faranno storie su storie, e alla fine, se uno non vuole sentire storie, rinuncia, capito? All'inizio fanno gli abitoni, anche qua, oh, io vedo male la TV, invece non era vero, nessuno si è mai lamentato del palazzo del TV, hai capito? Perché la mia antenna in effetti è dietro l'antenna TV e più in alto dell'antenna TV. Ma forse devo entrare avanti. Avanti, chi è che vuole entrare? Forse sarà stato l'attalino, facciamo prove. Stavo dicendo qua, ma se tu vieni a te il terrazzo, è semplice salirci, e allo stesso tempo puoi trovare, oh, scusa, devo vedere l'antenna della TV, e tu se ti fai una di quelle antenne lì, cosa fai? Passa all'osservata, te la porti su, te la porti e te la piazzi, questo con la scusa di controllare l'antenna TV. Questo, ripeto, è una cosa leggerissima, non ci sono problemi qua. No, questo problema è che comunque il diritto sacrosanto ce l'hai, perché ognuno di lui ha il diritto sacrosanto, se vuole piazzare un'antenna la può piazzare per legge, per cui la gente non può opporsi. Se poi non vuoi fare tutta una questione di quieto vivere, è un altro discorso. Va bene, avanti Marco. Guarda, purtroppo anche se il baracchino non disturba, tutti come vedono il problema la TV, anch'io a me ogni tanto squadretta, no? Ma mi si vedrebbe ogni tanto squadretta, vabbè, con chi me la devo pigliare? I noghi non ve ne erano autori di CP. Quando, ricordati Franco, quando c'è un'antenna CP sul tetto diventa il capro espiatorio di tutto, il citofono, il computer non funziona come l'attarino e tutto il resto. Magari non è il baracchino, ma la colpa verrà sempre a te, quindi ci siamo passati tutti, credo. Giulio, tu non hai mai avuto problemi condominiali o rivicinato? No, guarda, dove abitavo prima qualcuno si era permesso, ma ho fatto passare la voglia subito, perché un giorno mi sono costruito un ricevitore a reazione, mi sarebbe che sono andato in fili, e l'ho lasciato attaccato per una settimana intera, io ero in vacanza, in fili, in campeggio. Quando sono tornato non ero più io, perché in realtà non ero io, già da prima. Però loro, siccome c'era un'antenna messa un pochino fatta male, e allora il discorso era sempre la colpa era mia. Quando io avevo l'antenna indipendente, avevo con la stessa antenna TV sullo stesso palo, e tutto filava liscio, e è sempre andato bene. Per dirti no, ma gliel'ho fatto passare la guglia, gliel'ho fatto passare. Quando sono rientrato non ero più io, e dice non può essere lui, capito Marco? Me lo ricordo questo, me lo ricordo. Bene. Il braccetto c'è qua, vediamo quanti gradi sono in casa. E non sono molti, sono 19 gradi qua. 19 gradi c'è appena di corrente, perché c'è il gavetto, diciamo, dell'antenna esterna. Purtroppo non posso chiudere la finestra, devo lasciare il posto almeno che passi il campo. E ogni tanto filtra corrente, aspettate che la chiudo un po', dai. La chiudo un po' la finestra, dai. E per quanto possibile, dai. Un attimino, sono subito. Ok Marco, ma lo può fare un fogliolino col trapano, ci passa giusto giusto il carro dentro, senza esagerare, così la finestra viene chiusa. Ci sono bambini in LPD, ci sono, stanno giocando in LPD. A casa sei arrivato. Ok, va bene, va. Dai. E non so se puoi rientrare a casa, poi siamo qua comunque al limite, dai. Ok, intanto mi chiedi salutato al momento. Ok, dai, se vi ritrovo. Ciao. Ciao Franco. Vabbè, torre di controllo, hai gocciovigliato ieri. Cos'ho? Gocciovigliato. Aspetta, sei talmente colto che non riesco a capire questa tua parola. Grazie Giulio, spiegagli a tutti. Gozzovigliato, gozzovigliare praticamente, vuol dire se hai festeggiato in qualche maniera, se hai bevuto, se ti sei divertito, cose del genere. Se ti sei abbuffato, me. Io quando vado fuori ho sempre un limite, soprattutto quando sono con la mia famiglia, quindi ho mangiato normalmente, bevuto normalmente, è rientrato allora stabilita, quindi prima di mezzanotte, penso, non so, forse a mezzanotte ero già a casa. Va bene, c'è freddo, va bene. Chi è che sta giocando nell'EPD? Non sento nessuno io nell'EPD, è forse in PMR, Giulio. PMR sono, sì, i bambini ho sentito, che quando sul trasmettono in PMR li sento anche nell'EPD. Sarà qualcuno dalla zona della Tenoce, non lo so. Come fanno a trasmettere in PMR, li senti anche nell'EPD? Sì, e beh certo, è un giocatolino quello che ho io, e dunque, è così, qua. Sì, lo sento, magari se parlo in PD non mi sentono loro, però io in PMR sento anche in LPD, non ci sono problemi. Ma è meglio così, così almeno posso tenere sotto controllo un po' tutto, no? Una cosa che non capisco, né? Uno è 433, uno 446, io non sento niente, ed è meglio che lì rimanga pulita e ordinata, perché sennò diventerebbe un bordello. Chi è che chiama Giulio? No, Claudio, mi senti? Aspetta, ti sento. Dalla macchina, quanto è lì? Santiago, quasi 9. Vabbè, secondo dove sei, sì. È sotto casa? Sì, buono, sì. Quasi di Santiago 9, sì, 8 e mezzo. Sì, ciao, Fra. Avanti, Marco. Ehi, a buffare, si può dire, col suo figliare, dai. E beh, c'era quell'uomo brutto, sì, avete mangiato bene. Sì, sì, ho mangiato benissimo, alla grande, come sempre, tra l'altro, non ho avuto tutti, si mangi bene, siamo stati anche bene, c'è la musica dal vivo, insomma, siamo stati bene, poi io quando ho la mia famiglia presso, non è che sto lì, sono stato bene, una bella serata, tutto occhio. Ehi, sono contento, dai. Ehi, quindi c'era Franco, siamo sentiti in Giulio giù. Comunque c'è qualcuno di MR, forse in macchina, avrei segnale proprio qua, sale e scende velocissimo, tipico di quando ci sono veicoli in colonna, dai, adesso sono spariti comunque. Franco adesso riprende da casa, bene, bene. Hai visto che è giornata brutta? Per carità, ieri stava bene in campagna e poi oggi è peggiorato, dai. C'è un'aria un po' freschetta, non so se ha dato acqua, cosa ha dato, non so. No, stamattina eravamo ad Alghero con Massimiliano, abbiamo sistemato un po' quello che potevamo sistemare di Giuseppe, perché tu sai che cosa sta uscendo Giuseppe o Giulio, che io non mi sono accorto perché prendevo, facevo altre cose, quindi il capo non mi è mai capitato direttamente. Sta uscendo con un capo da 75 ohm, adesso ordina il capo, io dico, ma chi ha montato quell'antenna non si è accorto che quel capo era da 75 ohm e non da 50 ohm. Ma era un cipito il nipote, dai. Sarà anche quello il motivo per cui non arriva qua, non è possibile. Cioè, ma ti rendi conto, tu che sei stato per anni un antennista, che sai, conosci bene i cavi. Mi ha visto sto PL, tocca non tocca, con Massimiliano. E ci siamo accorti subito che il cavo era molto più grosso del 1958, sono andato a controllarlo, 75 ohm, quindi un cavo di televisione. E ero grido che non arrivi, e ero grido che non arrivi, Marco, ma stai scherzando, mica da lì. Ho abitato per anni via 20 settembre, e quella è una delle traverse via 20 settembre, Sant'Agostino, capito? A prescindere che a 100 metri da lui ci abitava mio nipote, figlio di mia sorella, che modulava ad Alghero, capito? Quindi Pasqualino Penna Bianca, e arrivava a Sassari 9.5, io ero già qua. 9.5, 9.10, con senza lineare, con senza niente, cioè allucinante, è chiaro, adesso settimana, tanto io sono in ferie, ultimare queste ferie, quindi rientro quasi a fine novembre, c'ho tantissimo tempo per potermi dedicare a lui, adesso settimana prendo un cavo nuovo, le regi 58 nuovo, perché il cavo grosso ne mettiamo, sono una quindicina di metri, va più che bene quello. Tutti i PL nuovi, sopra, sotto, tutti gli spezzoni nuovi, e poi ti faccio vedere come arriva. Eia, quelli vedi a fidarsi a persone che non ne sanno niente, cosa succede? Che fanno cagate, fanno proprio cagate. Già l'antenna, vabbè, lasciamo perdere l'antenna, ma il capo. Ecco che Spinotto l'avrebbe collegato questo cavo più grosso con quello del 58. Come ha fatto? In un tenerico incasciato dentro a forza, tutto si muoveva, lì ci siamo accorti c'era qualcosa che non andava da Massimiliano, ci sono purtroppo adattatori e PL per quei cavoli, sono dei per la 27, sono dei connettori per TV, quindi fatti apposta per il 75 ohm, o sbaglio Giulio, non ce n'è PL per il 75 ohm. No, assolutamente no. Diciamo che si potrebbe adattare, sì, forse con la ghiera, mettere la ghiera, però deve essere quel cavo da 8 mm almeno, 7-8 mm, perché se no non è possibile. No, ma poi c'è un disadattamento madornale tra antenna che è di 52, 50-52 e quello 75. No, assolutamente. Sì, diciamo che già si potrebbe anche utilizzare, ma solo facendo un certo tipo di lavoro, una doppia linea di discesa, poi accoppiata, poi nel finale un condensatore che scende, allora scenderebbe a 50 ohm, ma questo è tutto un altro discorso, è una questione di professione, basta, uno qualsiasi non lo saprebbe fare una cosa del genere, però è assurdo poter utilizzare un cavo da 75 ohm su uno trasmettitore che deve essere a 50 ohm, 50-52 massimo, per cui c'è un disadattamento in antenna madornale, no, non è possibile qua. Infatti ce ne siamo accorti. Vabbè, comunque se mi ha dato l'ok non si sta, tanto abbiamo fatto la cosa principale, messo il microfono da tavolo. Non lo può tenere quel microfono più di 1,5-2, perché sennò è una cosa allucinante, rimbomba troppo e quindi lo deve tenere così basso. Ma anche lì c'è un disaccordo allucinante, perché c'è una perdita, questo QRM a Santiago Nofe, in un baracchino, perché lui c'è un baracchino base. E vabbè, abbiamo scoperto un'altra cosa. Sì, ma infatti non entrava neanche con l'adattatore, perché l'adattatore del 58 è leggermente più grosso, quello io lo chiamo un RG59, un 75 ohm, quindi leggermente più grosso. Quindi è stato spellato proprio al minimo, calza non ce n'è da niente, si muoveva tutto. E perciò Massimiliano è riuscito a tagliarlo, c'ha abbastanza forza nelle dita, inserirlo bene dentro, abbiamo messo anche un pochino di stagno giusto per farlo modulare, per non muoversi, e in settimana le prendo questo cavo nuovo con tutti i PL nuovi e si fa il lavoro fatto come Cristiano. Marco, l'antenna può essere quella che vuoi, va bene, è un'antenna che abbiamo, insomma, la conosciamo tutti, però lui da lì a me mi deve arrivare molto forte, mi deve arrivare, deve ricevere molto bene, invece non vi riceve perché c'è un disaccordo allucinante sia in trasmissione che in ricezione. Ma lui, per curiosità, le stazionali le avete controllate con quel pasticcio di impianto? Adesso che gli ho portato uno strumento serio, sì. Sai cosa gli ho portato? 4. Stava modulando con 4 di stazionali. Quindi abbiamo dovuto cercare di fare anche un lavoro un po' particolare per poter portare le stazionali almeno a 1,7, 1,8, ma giusto per farlo modulare, ma deve fare passaggi molto corti. Stava modulando con 4 di stazionali. Ora di capo. Ma poi siamo sicuri che questa antenna sia tarata, oppure lui l'ha montata e l'ha buttata lì e l'ha piazzata lì senza tarare. Ora capisco tutto, allucinante, e quando attaccava il lineare faccia distribuire i finali. Sua fortuna è che con il lineare attaccato le stazionali ammassano, vanno a 1,7, 1,8, 1,6, la sua fortuna è quella, capite? Ma gli fa anche passaggi molto corti, quindi la radio che c'ha è un base a 2,20, sai, di quelle Caterpillar. Se avessi avuto un baracchino normale di ultima generazione l'avevo bruciato subito. Ma il danno principale è stato fatto nella prima radio, nell'HF che gli avevo dato io, capito? Infatti il danno che aveva l'HF quando io l'ho mandato in riparazione era proprio sul il relay di commutazione di impedenza. Mamma mia, che impianto! Mi hai ricordato quell'amico Marcello che aveva preso praticamente del cavo TV, no? Il centrale della cassa, allora tutti mischiati a ruffandoli, no? Come un contatto unico l'aveva infilato nel buco della scatoletta. Cioè non è che ha messo il centrale con la vite, capite? Infilato così, adesso chi l'ha fatto questo impianto? L'ho fatto io. C'è gente che proprio non ha detto, non è detto cale roba di antenne di radio. Vai Giulio. Ok. E a quel punto allora qua, secondo me, per fare un bel lavoro bisognerebbe dare un'occhiata anche all'antenna, come è stata piazzata, se tutti i collegamenti dell'antenna, tipo, che so io, radiale, eccetera, oppure stilo centrale, se hanno dei punti di riferimento che dovevano essere rispettati. Insomma, adesso cambiare il capo la cosa, ma tanto quando salite poi magari già te ne accorgi, però è da rivedere tutto l'impianto, quello è da rivedere tutto, perché non è possibile. Conviene allora qua a questo punto fare un piccolo spezzone, no? Prima di sostituire il capo tu attacchi quello all'antenna e col rosmetro e controlli se l'antenna ha delle stazionarie già direttamente in se stessa, perché se no è un problema, è un problema veramente, bisogna ritornarci. Invece tu devi controlli sotto antenna lì, fai un duro per lunghezza, porti il rosmetro e controlli lì, dopodiché se è tutto a posto allora puoi proseguire a fargli un cambio di discesa nuovo, cioè il cavo di discesa nuovo, questo la se no può essere sempre un problema qua, già che ci devi salire fai quella controllo prima. Giulio, allora non mi sono spiegato, io ne butto tutto giù, non mi interessa quello che hanno fatto gli altri, mi interessa quello che devo fare io, capito? Io quel cavo salgo e lo stacco e lo butto via, ok? Poi mi attacco direttamente il cavo nuovo, col PL nuovo all'antenna, allora a quel punto posso vedere se l'antenna è a posto, ma altri cavi non ce n'è, non ne abbiamo, capito? Che sono a una ventina di metri a entrare dentro, 15-20 metri, quindi ci vuole prima il cavo nuovo, preparare il PL, abbassare l'antenna, attaccare tutto, ok? Dopodiché con lo strumento che ha, perché gli ho comprato un CN801 della Daiwa, che è uno strumento molto ma molto preciso, ce l'ho anche io, ce l'ho anche Massimiliano, e dopodiché vedo se l'antenna è ancora da tarare, ma non penso comunque, non penso che sia proprio un problema di cavo, c'è un disaccoppiamento allucinante, perché abbiamo provato anche a fare una diretta a volante, ma no, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, cioè cercare di far passare meno impedenza possibile, farla calare tantissimo, ma non c'è niente da fare, le stazionarie calano, ma è proprio il cavo che sta creando quel problema, e soprattutto il QRM e la ricezione. Tu immaginati che lui schiaccia la portante e si spegne il televisore come che tu lo stai spegnendo dal telecomando, perché il suo cavo da 75 ohm assieme a quello a 75 ohm della TV scendono tutti e due uno vicino all'altro. Beh sì, perché ha incominciato delle studie, già lo credo, e a lui beh, ha tanto di quella radiofrequenza che gli ritorna indietro, che gli scende lungo la cassa del cavo, che la butta fuori e ce l'assorbe tutto l'altro cavo che c'è vicino, certo. No, ma io intendevo, tutti i punti, uno spezzone, tipo 90 cm di spezzone, no? Tipo quello che si usa per attaccare il rosmetro, anche 45, quando l'antenna è bassa, lo guarda direttamente sotto lì, prima di addirittura di attaccare il cavo di discesa, provare così intendevo io, per vedere se l'antenna appunto è stata montata a dovere oppure se c'è qualche problema già direttamente all'antenna, per evitare appunto di abbassare di nuovo eccetera eccetera. Mi sono chiarato qua, con uno spezzone piccolino anche da 90 cm, metti il rosmetro e tu quando c'è l'antenna bassa gliela controlli, anche se è bassa va bene lo stesso, per vedere se ci sono stazionari. Sì, sì, una volta che però in quel momento non si può fare, oggi non si poteva fare perché l'antenna è sul tetto, quindi c'è da rifare tutto da capo, tutto da capo. Io non capisco un tecnico GBC che va a montare un'antenna non si accorge che il cavo è d'alta impedenza. È uguale, è precedente calcolo della TV, precisamente identico, uguale, stessa impedenza, il centrale, quello in scura, precisamente. C'è il conto Massimiliano, perché tra l'altro ero anche senza occhiali, quindi non ho lasciato gli occhiali a casa, ma io stavo facendo altro. Si è accorto lui, adesso si è ributta tutto giù, ma ti ripeto, ci vado la mattina, pranzerò ad Alghero, capito? Perché essendo io impegnato e avendo solo il fine settimana e andandoci, voi siamo andati stamattina alle 8 e mezza, siamo tornati che era mezzogiorno passato, proprio cercando di fare l'impossibile per mettere a posto, ma non c'entra a farci, cioè cambiare il cavo e fare tutto a capo. Abbiamo però terminato la parte della radio, quella roba lì. Lì va più che bene. Io vabbè. Purtroppo quando vedo una persona così, che Giuseppe Peletta, che è molto preparato, perché è molto preparato, però lui si è fidato, ha lasciato fare a loro e ciccia. Vabbè. Avanti Marco, sì, spegne il televisore, cioè tu lo spegni dal telecomando il televisore, lui lo spegne dal PTT. No, ma cos'è che ha detto del tecnico GBC? Ma perché il nipote era un tecnico GBC? No, il nipote si è andato appunto a comprare l'antenna, quelli a GBC di Alghero li hanno piazzata, capito, lasciandoli questo cavo. E allora sono dei papei d'oro, a non accorgersi che era un cavo di antenna TV. Roba da matti. Questa la dice lunga, molto lunga. Ma ascolta Claudio, ma voi riuscite a tarargliela? Cioè se vedete che c'è una stazionaria, quell'antenna da dove si tara? Dalla punta o dalla solita spira con quel morsetto che cammina, invariabile? Quel morsetto che si... Sì, già capito, dai. È completamente diversa, io sono vista da vicino, è completamente diversa da quella che hai detto tu, Marco. Questa c'ha gli stili, è netto come può essere una X500 a ghiera, ok, ci sono delle misure da rispettare. Adesso una volta che si abbassa io vedo se le misure sono rispettate. Però è praticamente si tara da sotto con una ghiera praticamente, niente di che. Siamo sicuri che l'antenna sia un'antenna CB e non un altro tipo di frequenza? Lo sa anche quello. Guarda, ti ripeto, io l'ho visto, si vede in alto montata, purtroppo non è che si vede altro, però abbiamo preso le caratteristiche, abbiamo visto le caratteristiche che ci ha fatto vedere lui l'antenna della 27. No, ma l'antenna va bene, non c'è niente, perché è un problema di cavo, Giulio. Un problema in cavo, perché prima di arrivare il cavo diretto non c'era sotto commutatore, quindi dal commutatore abbiamo cercato di far uscire uno spottone più lungo possibile. Le stazionali abbassano, quindi cala l'impedenza. Più cavo 58 le dai dal commutatore d'antenna sino alla radio, e più cala l'impedenza, no? Dovrebbe essere così, quindi calano l'impedenza, calano anche le stazionali. C'è proprio un disaccordo allucinante. Registrato, fa, sì, un attimino. Sì, beh certo, appunto, come sto dicendo, ripeto, chi ha fatto quel lavoro evidentemente non era esperto, sarà un semplice commesso, magari che si è voluto fare qualche soldino, andare a piazzare l'antenna dopo che gliel'ha venduta, da quella del negozio, eccetera, eccetera. Per cui, ripeto, anche il cavo da 75 ohm si può utilizzare, però deve essere una doppia discesa accoppiata con un condensatore PUI, e dopodiché serve questo condensatore per far abbassare l'impedenza da 75 a 50 ohm. Però non è lavoro da fare uno qualunque, lo deve fare uno che sa fare l'antennista, no? Non è così semplice, ma buona, comunque, ripeto, quello che stavo dicendo, qua, tu prova per modo che poi non si sa mai, magari se di benevolarla di nuovo questa antenna, mi portaci uno spessore già preparato da casa, così, lo spessore anche di un lineare, di un rosmetro, ci metti quello prima di attaccare il filo di discesa, tu lo provi se effettivamente l'antenna è messa a dovere, o se già in partenza ha delle stazionarie, perché può essere più alto, più basso di qualche filo, ed ecco che a quel punto può esserci problema. certo tocca fare due volte da volo. Va bene, già mi hai capito quello che voglio dire. Avanti Franco. Sì, sì, sì. Controllare le stazionarie sotto antenna. Comunque è già buono Claudio che abbia la ghiera di regolazione dei stazionari sotto, così mi hai detto. Perché se no se in punta è un casino, bisogna tirare giù l'antenna, non esiste, no. Rimetterla su, tirala giù, rimetterla su. No, si regola sotto, quando avete. Controllate l'1.40, vabbè già lo sai, no? Già lo sai, no? Avete 1.1, 1.2 l'estremità, ma coprirà sicuramente una almeno 80 o 120, o 120 canali, e le copriva la ringomia, figurati, la ringolemma, no? E poi però non capisco anche perché gli abbiano fornito un'antenna del genere quando potevano prendere una onestissima Energy mezz'onda. Una Energy mezz'onda sarebbe stata già, secondo me, migliore di quell'antenna. Vabbè, adesso c'è quella, si tarerà quella, si sfrutterà quella. Ok, c'è stato un break, chi era che chiamava? Eugenio, chi era? Passo, mi. Avanti Fra, ti ho rilanciato, ma evidentemente non mi ha sentito bene, Marco, avanti Fra. Non è Franco, è Valerio, avanti Valerio, poi ti spiego un'altra cosa Marco, avanti Valerio. Perché tu te ne vai a Porto Torres, lì nelle cunette a parlare, capito? Quindi non ti sentono bene, solo io ti sento bene. Hai capito Valerio? Quindi noi quante volte siamo andati? Due volte, non ci siamo mai accorti che quel cavo era 75 ohm. È Sandro, sembrava Valerio. Ciao. Sandro in campagna con l'antennino piccolo, ciao Sandri, no, pensavo che era Valerio, che era in macchina a Porto Torres, ciao Massimiliano. Marco, lui ha scelto quell'antenna perché non vuole radiali, allora lì c'è, dove avete il problema dei gabbiani, ok, perché è molto vicino al mare, i gabbiani si povera, i gabbiani, non i corvi e i piccioni, i gabbiani un cielo grandissimo. Ok, l'altra antenna che aveva, appoggiandosi i gabbiani, con il peso che hanno, quando partono, che aprono le ali, le rompeva sempre i radiali. Allora lui è abbastanza robusta, l'ho vista, Lui ha voluto un'antenna senza radiali, capito? Il problema di attaccare e misurare stazionare non esiste. L'antenna va scesa, ci sono 4 metri di palo, dove in punta c'è l'antenna del baracchino, sopra, appena più sotto, 50 centimetri più sotto, ci sono le antenne della TV, capito? Quindi quel sistema lì bisogna riabbassarlo tutto, rifare tutto da capo. Sì, ma cosa serve Giulio mettere un adattatore d'antenna, perché questo è il significato, per usare lo stesso cavo? Quando voto prima a Bugani il suo cavo e poi il cavo nuovo suo da 52 ohm, capito? Con i PL nuovi è tutto nuovo, sotto antenna le farole simmetrizzatore come faccio a tutte le mie antenne e basta, la lascio stare così. Avanti Massimiliano. Vi saluto, buonasera a tutti, vi ascolto, sono bagnato un attimo. Ehi, Massimiliano, capito Giulio? Farò tutto da capo. Certo, qua, ma quello è ovvio, ci mancherebbe. Appunto, te lo sto dicendo, non è che si fa così, tanto bisogna fare anche dei calcoli, eccetera, per cui, ripeto, si può fare lo stesso anche usando un cavo 75, però bisogna che uno abbia un minimo, almeno un minimo di professione, se no non ci riuscirà mai ad adattare il cavo 75 per farlo scendere a 50 ohm, assolutamente no, e capita, sarebbe anche così, no? L'ho detto così per dirci, per farti capire che già è possibile, però bisogna che ci sia uno che lo sappia fare, ci vuole una doppia discesa con un condensatore terminale, insomma è qualche calcolo matematico tra l'altro, se no non è possibile. Ma solo chi ha fatto l'antennista queste cose le sa fare, diversamente non le sa fare nessuno, o perlomeno qualcuno esperto che ci può anche essere, perché no? Certo. Salutoni Sandro, avanti. Ciao Massimiliano intanto, avanti Sandro. Lasciando che c'è un antennino lì buttato in cameretta in campagna. Ma sì, no, ma non è cosa che devo fare io, perché non ne ho mai fatto, non mi interessa farne. Io ho sempre usato i cavi su, i da 52 ohm, va bene così. Ma ho visto fare, mettere adattatori appunto di impedenza e va bene lo stesso. Però a me non mi interessa, io voglio farlo io quel lavoro, perché io lo dovevo fare. Io lo volevo fare con Massimiliano e Valerio, capito? C'è stato un periodo nel quale io purtroppo non potevo lasciare il lavoro per andare a Valghero. Adesso che sono libero ne butto tutto in terra e lo faccio io quel lavoro. Vi faccio vedere che lo sentite come che sia Sassari, per come è organizzato, a prescindere dall'antenna, Marco, ma è organizzato bene, non ti preoccupare. C'è un bellissimo amplificatore, una bella radio, io ci ho messo il microfono da tavolo, gli ho regalato, MB+4 nuovo, ha fatto le connessioni Massimiliano, quindi stai tranquillo che è abbastanza organizzato. Però il problema rimane nel fatto che l'impianto non è fatto bene, ecco perché arriva così in basso, capito? Anzi, sta facendo miracoli, infatti gli ho detto di toglierne tutto, di lasciare solo la roba che gli ho detto io e di fare passaggi più corti possibile, sino a quando non mettiamo il cavo nuovo e sistemiamo sia la trasmissione che la ricezione, Marco, capito? Però quella bisogna scendere giù, non ci arrivi a fare come stai dicendo tu, è tutto da rifare, è tutto da rifare. Ah, già compreso, sì, c'è anche il palo TV, va bene, che non lo attacchi troppo l'antenna, magari il palo TV, per esempio io ho 3,5 metri di palo, no? 3,5 metri, e adesso ho levato la terra di 40-50 centimetri, no? Insomma, dal gabbiotto al centro del terrazzo escono 2 metri di palo. In punta c'è l'antenna e a metà di questi 2 metri, quindi a 1 metro dall'antenna e a 1 metro al gabbiotto, c'è l'antenna TV. Capito? Infatti, dire che non l'attacchi troppo all'antenna... Vabbè, già hai capito. Poi, mamma mia, roba da matti. Poi se riuscite a allontanare anche di poco... Non lo so lì come sia, se c'è l'angolo. Se riuscite a allontanare anche di poco l'antenna TV e il baracchino, che non siano troppo attaccati i cavi, capito, volevo dire. Marco, in punta c'è un palo da 4 metri, in punta c'è l'antenna del baracchino, 30 centimetri sotto ci sono nello stesso palo, è un tubo d'acqua, non è un tubo, è un tubo d'acqua telescopico, fatto telescopico. 30 centimetri dall'attacco del PL dell'antenna del baracchino ci sono 2 antenne TV, primo e secondo canale, ok? Controllare tutto, diciamo che vuole aver fatto l'impianto come si deve, fa. Comunque, se ci vai tu, ovviamente, come stai dicendo, sicuramente farete un buon lavoro sia tu che Massimiliano, e così lo mettete in condizione appunto di trasmettere. Almeno non dico che mi deve arrivare forte il segnale, non me ne frega niente, ma che non devo sentire almeno in radio questo Giuseppe, perché non riesco più a sentirlo. E poi inizialmente mi ricordo proprio il primo periodo che lui era entrato in frequenza, ma così la sentivo, ma poi proprio adesso niente, nemmeno si muove l'ago, figurati. Prima invece arrivava qualcosina, sentivo 4-5, però lo sentivo, basso ma lo sentivo, e mandava bene lo stesso perché riusciva a capire quello che diceva, ma poi alla fine proprio niente di niente. Vediamo se rientra Sandro. Sandro, ci sei? Vediamo invece se c'è Giuseppe in ascolto. Giuseppe, ci sei? Giuseppe? No, ma poi non puoi stare molto, perché è un uomo di una certa età, stava già entrando in tilt quando ha visto tutto sto casino, queste cose, quando gli ho detto del cavo, quindi, capito, ha molta fiducia in me, Giulio, e perciò ci vado io questa volta, non faccio toccare niente a nessuno, non ci vediamo, eccetera, eccetera. E facciamo una cosa fatta bene, perché io lavoro fatto così non ne ho mai visto. Proprio una sottomeria che non viene bene a dirlo. Vabbè, cambiamo discorso. Ok, avanti Marco. Eia, vabbè, quello che avevo visto io era peggio di quello che hai visto tu. Proprio infilato nel buco della cassetta, i due cavi tutti arruffati assieme, il centrale, la calda. E quando ho visto era libito. Libito, ma che ha fatto questo impianto? L'ho fatto io, attacco. E poi si lamentavano che non vedevano la televisione, ma roba da matti. Poi l'ha capita, poi è diventato un po' più assennato, ma all'anima. Era ignorante in materia, ecco cosa era. Ah, il cocomane. Un briacone tragico. Ciao Natalì. Oh Marco, questo è peggio di un collegamento che ha fatto una volta mio fratello. Se permesso gli faccio la presa in bagno, e ha preso la corrente da una presa che c'era lì, e quando andava a accendere la luce, non l'ha presa, l'ha fatto la luce, aveva messo, aveva cambiato posizione o qualcosa del genere. Quando andava a accendere la luce si metteva in funzione la lavatrice. Guarda che non sto scherzando, veramente, ma Marco. Se mi date che mi sono fatto la volta, la tua immagine Marco. Interessante, aspetta, ma se accendevi la lavatrice invece si acceneva la luce e viceversa. Ma roba da matti, roba da matti. E io. Vabbè. E vai Natalino, riprendi. Ben entrato. È perché mio fratello che non riusciva a spegnere una lampadina. Sono bastato i lavori, sono stanco. Io ho tagliato tutti, ho visto che si è spenta. Ma la gara si spegneva. Ma c'è Valerio. No, non era Valerio, era sempre Sandro, ho sbagliato io. Ah, sempre Sandro, ho capito. E vabbè, ci siamo sentiti stamattina, ci siamo salutati con Sandro, mi ha fatto molto piacere di sentirlo. Anche quella, Natali, quella, guarda, io fa libre, tagli un vivo e non c'è più niente. No, ma va bene, guarda Marco, non sto scherzando, lui aveva preso la corrente, che non so nemmeno io come ha fatto, dalla presa, si è fatto un collegamento, si è fatto per la lavatrice, quando entrava in bagno accendeva la luce, si metteva in funzione la lavatrice, è stato costretto a staccare la spina, perché se no tutte le volte che entrava in bagno si accendeva la lavatrice, e allora mi ha chiamato, ha detto, ma non hai combinato, ma cosa stai facendo? Così, anzi, è venuto a casa, mi ha detto, quando accendo la luce, dice, come, cos'è questa cosa? Siccome tutta l'altra parte gliel'avevo fatta io, poi lui si è voluto mettere a pasticciare, ma ha fatto un macello del diavolo, sono andato io e gliel'ho sistemato, come si vede, incredibile, ma tutte le volte che glielo ricordo, anche lui si mette a ridere, la moglie e poi non ne parliamo, ride come una matta. Riprendi qua. Beh, con la radio collegata, non riuscì a chiudere la lampadina. Evidentemente l'ha messa diretta in qualche maniera, se non so, veramente di ghiacci. Io dico solo questo, con la corrente non si scherza. E soprattutto chi non è, capisce niente, non si deve permettere assolutamente non di toccare a fare i lavori, eccetera, ma possibilmente andarci con i guanti anche quando accende un interruttore. Perché chi non sa niente può creare dei danni per sé e per gli altri, per carità, non va bene assolutamente, è pazzesco fare una cosa del genere, ma comunque impareranno, dai, avanti Marco. Guarda, se vai a farlo non ti viene, se vai a fare tu una cosa del genere non ti viene, sa che grazie ai collegamenti ha fatto lui. Eia. Vabbè, fatti girare, dai. Ok, dipende di qua, dai. Contento, già sei contento, altrettanto sono contento anch'io, riferendomi a ieri notte, per cui va bene così, dai. Speriamo che sia l'inizio di una lunga galoppata alla grande. Tutto, vabbè, non parliamo di calcio perché Natalino e Claudio non sono assolutamente tifosi, per cui va bene così. Comunque, te l'ho voluto rammentare, qua, vai. Sì, mi dispiace per mio fratello, per i milanisti, però viene il campionato, vince il Napoli, c'è niente da fare. Va bene, chiuso il discorso, non lo ferma più nessuno là, è troppo forte, non c'è niente da fare. Anche io ho già dimostrato di essere una grandissima squadra, perciò va bene così, dai. Avanti Natali De Critti, appunto, hai aumentato sempre normale, va bene, così? Due rate, più di due rate non posso uscire perché disturbo. Due rate, ti hanno avvisato che stavi disturbando di nuovo? Allora, tornato normale, chi mi sente, chi non mi sente, per il momento è così. E cioè... quando hai messo a 5 watt praticamente disturbi. E allora che mi hanno avvertito e quindi l'ho riceso al minimo. Nonostante abbi il filtro, anche tu non sei messo bene lì, per carità. Mamma mia, c'è una cosa. C'è una cosa, hai dritto tu. Uomone. C'è una cosa che odio il TV. Per carità, che brutto, mi prendi cuocomane, Marco. Ah, così è. Nonostante due filtri, di cui uno abbastanza, dico, no, allora è colpa loro, te l'ho detto. No, io sono un volgare LPDista. Cosa stavo dicendo? Natali, è quello che ti ho detto il primo giorno, dipende dal loro impianto, dipende dal loro impianto, te lo ripete, dipende dal loro impianto, non sono problemi tuoi. Parla qua. E Natali, allora rinuncia a parlare al baracchino oppure usa solo un watt, cosa vuoi che ti dica? Non li posso disturbare. Magari ti senti, oh. Sento PMR e l'IPD assieme. No, Giulio. Se tu rimani nella tua, perché se no non ci capiamo, Giulio, te l'ho detto, noi ci abbiamo fatto la nostra. Io non mi sposto da quello che ho detto, A me del PMR non mi interessa. Quindi se stai parlando del PMR io ce l'ho spento, Io ricevo e trasmetto nell'LPD. Sì, ma no, aspetta che mi spiego. Siccome Natalino, appunto, come stavo dicendo, può avere problemi, eccetera, no? In LPD lo sento bene, mentre invece in PMR lo sento bene, mentre invece in LPD non mi arriva qua. Cioè, se ci fosse bisogno, addirittura possiamo cambiare frequenza, anziché rimanere sul 7 possiamo scendere all'1, proprio per dare la possibilità a Natalino di parlare anche lui tutti insieme, ecco, solo per quello. Poi quello d'accordo, non sono d'accordo anch'io. La frequenza monitor per noi rimane sempre quella, certo. No, perché io mi trovo meglio e poi sono più in regola rispetto a quella, capito? Perché per me posso tenerla anche se in ascolto, una secondaria mi va bene, di là non uso io di radio amatoriale per ascoltare lì, capito? E come non senti a Natalino e nelle PD, strano, non segnalone qua, come mai? Come mai? Evidentemente è così, l'abbiamo già fatta la prova, quando è che l'abbiamo fatta? L'altro giorno, forse sabato mi sembra, adesso non ricordo bene, ma abbiamo constatato che in PMR lo sento benissimo, mentre invece in MPD niente. Tant'è vero ce l'abbiamo spostato sul canale 1, e cioè a 446006, proprio per evitare di avere la stessa frequenza dell'altro gruppo, solo per quello che io lo stavo dicendo. Ma ciò non toglie che il canale monitor rimane sempre quello che abbiamo stabilito, questo senza dubbio. Non ci fate più che io adesso lo ripeto. Parlasse qualcuno, come ti ho detto, lo sento lo stesso, non ci sono problemi. Stavo dicendo salute a Marco nelle PD che ha pernottito. Sì, va bene, ma il caso di Natalino sai perché? Perché lui ha l'antenna calata in PMR, fatta per il PMR. Se lo dovesse mettere una X30, ok, il suo problema sarebbe risolto, dimmi, nella finestra. Ho una base magnetica, ma non ce l'hai la base magnetica con un cavo lungo RG58 della macchina? Dove l'hai messa quell'antenna mostruosa che tu avevi, UHF e UHF, dov'è? Sul frigo. Dov'è Natalino? Natalino, diglielo, sul frigo, nell'angolino. Il frigo è la base magnetica, sul frigo, con quell'antenna lunga. Ma stai uscendo con quella in LPD o stai uscendo con quella che c'è attaccata sotto, sopra? Con quella di sopra. Quella di sopra in LPD non serve a un Kaiser, ok? Non serve a niente, nulla. È completamente diversa. Sì, però io se uso quella del frigo non mi sento ugualmente, perché è dentro casa. E tu la prendi da sopra il frigo e la metti nella finestra. Hai visto che c'hai quella staffa? C'hai quella staffa. Ok, prendi la base magnetica, tam, e la fai agganciare alla staffa. Capito? E vedi che ti sentono tutti. Ma quello che vi avevo detto io, infatti abbiamo parlato anche di quello l'altro giorno, al limite del ripiegare su una X30. Appunto quello che vi avevo detto io qualche giorno fa quando abbiamo parlato e fatto la prova, capito qua. Per cui lo sa già Natalino tutto questo. Ma guarda, anche con quella base magnetica fuori tu la puoi mettere, perché quella base magnetica è quell'antenna che c'ha lui, è un'antenna eccezionale. Siccome si piega anche, quindi lui non fa altro che attaccare la base magnetica al tubo e poi gira l'antenna e la mette dritta, capito? E vedrai che va bene, senza fare molti esperimenti, Natalino, connettori, non connettori, a base magnetica, ok? Se no venga in Chivi, ti muovo una biastra e un'altra in piano, mi sopra, con due punti di saldatura e tu appoggi la base magnetica sopra la piastra, capito? Perché io esco, Marco l'ha vista, io ho la stessa antenna tua, però nuova banda, solo UHF, con la piastra, sopra, all'avanzare della finestra, nel marmo della finestra, con una piastra da 20x20 in ferro, eppure mi sentite tutti. Ok, il piano si può mettere solo una cosa, questo proverbio dice, legno di punta, donna in piano, sostengono il Duomo di Milano. E fermo così, sottraiamo questo Duomo di Milano, ma facciamo qualcosa. Capito Natalino? Una piastra nella parte della finestra, una piastra in ferro, che dovrei averla anche io, e tu ci appoggi la base magnetica come ho fatto io, perché io non sono a 40 metri d'altezza. Quell'antenna mia sta uscendo al secondo piano, chiusa in mezzo ai palazzi, chiusa, ok? Mi sentono tutti e mi sento anche io, quindi perché non devi uscire tu? Ma tu sei a Carbonazzi, è già alto nonostante il secondo piano. Qua è chiuso in un vicolo, quasi compreso. Sì, Sandro, avanti. Alla Sabati. Sì, Sandro, avanti. Ok, Sandro, sentiamo dopo qui da me, la radio è ultima. Va benissimo, non ci sono problemi nel radio. Sì, gli amici li avrei sentiti, comunque te li elenco io, Marco, Claudio e Natalino, vai perché vuoi. Eia, tanto non mi ascolti, tu arrivi Santiago 5. Eia, ma dove ti trovi, sa? Ah, ok. Capito, Claudio? Natalino ha risposto giustamente che mentre tu sei a Carbonazzi, bello in alto, anche se al secondo piano sei a Carbonazzi, lui ha detto che è chiuso in un vicolo. C'è il muro contro muro, insomma, dai. Da lì il segnale c'è ben poco. E l'alternativa io non le vedo, boh. È un macello qua, macello. Sicuramente qualcosa si sente, boh, meglio di quella lì, non so, fare una prova, visto che siamo in fase di sperimentazione, non penso che costi molto, se no bisogna mettere un XC30, qualcosa del genere, giusto per ascoltare, insomma. Vedi un po', Natalino, ma quella che hai non va bene, voi volete fare l'altra manovra, si può anche fare, il problema è che bisogna tenere due radio accese, perché in una arrivo fino a 4,40, nell'altra invece è un po' più ampia, quindi devo tenere due radio accese, e devo usare con un'antenna diversa dall'altra. Va bene, dai, comunque, adesso siamo i 27, parliamo i 27, poi si deciderà più avanti. Ciao Sandro, sì, Santiago sei un po' più alto rispetto a Marco, ma un pochino, 5-6 anche qua, ok, avanti Giulio. Ok, io già sono vicino a Sandro, per cui già lo sento più forte, Santiago 9, abbondante anche, per cui va bene così. Sì. L'antenna ce l'hai, mettila in campagna quella che hai tolto, e così quando ce l'hai a disposizione, quando ti va la puoi usare. Fissa lì, l'avevo lasciata fissa con una radio attaccata, quando me ne attacco il piede all'alimentazione, qua non ci sono io, attacco il piede all'alimentazione, tutto qua. Il gioco è fatto. Vai Marco. Se no che alternative ci possono essere per Natalino? Qualcosa da mettere, da attaccare al tubo, sul davanzale, ma purtroppo sempre quello che è proprio ciò è lì, è muro muro. Non esce il segnale più di tanto. Boh. Vabbè, già mi sa male, già è bassa la mia, io sono piano rialzato, vabbè, dalla parte interna è un primo piano. La parte interna è un primo piano. Sul tetto andrebbe messa da me. Mi, a proposito, mi, Claudio, Popponio mi ha proposto di mettermi l'antenna VHF sul tetto con 50 metri di RG58. E quanto segnale dovrebbe uscirne da lì? E beh, tanto lei lì non basta l'H1000, perché sono 50 metri, è una perdita eccezionale. Nonostante l'H1000, è inutile metterla sul tetto a quei livelli. Certo che sì, ma io penso che lì con una, anche se muro muro, non dovrebbe per noi, perlomeno per sentirci noi qua in città, no? E Natalino, dobbiamo fare grandi cose, mamma mia, non dobbiamo fare grandi cose, giusto per avere una monitor diversa dagli altri e basta, noi ci dobbiamo parlare lì fissi, siamo qua, 27, va bene così. Quindi penso che con l'antenna che hai, VU messa fuori, ti suona meglio di stare dentro, perché io ti sento se tu attacchi quella, attento, ti sento Santiago 1 da dentro, ok, se la metti fuori, come avevi fatto inizialmente col baracchino che continuavi a tenerla sopra il frigo, io da giù buone lavora l'antenna, buone lavora lei, la vaia che cosa. Si è arrivato a Santiago 9, quindi da Santiago 3 si è passato a Santiago 9, con quella per sentirci noi sono sicuro che va molto meglio di tenerla dentro, non so se sbaglio qualcosa. Proviamo a metterla sul tubo, già ce l'ho una staffa, me la tolgo dalla base magnetica e la metto nel tubo. Quella che avevi prima, Natalino, quella che avevi prima la staffa palo, no? Ok, però non hai massa, se invece fai come ti ho detto io, con la base magnetica stessa, senza togliere dalla base magnetica, il tubo è grosso quello, no? Quella staffa che tu c'hai, quella staffa, quella che non abbiamo tolto praticamente, no? Quella, l'ho vista l'altro giorno, c'è una staffa. Quindi se tu gli appoggi la base magnetica lì, che attacca, visto che il tubo è largo, gli appoggi sopra, non so se rendo l'idea, la lasci stare così e ti porti il cavo dentro, anche se le metti un barilotto che non ci arriva, io penso che vada molto meglio senza fare grandi manovre. Non ci vuole la base magnetica, perché la massa non la fa nella tappa del tubo. Ah, Cicina. La fa ma. Vabbè, vedi tu, io ce l'ho con la sua base magnetica, ho messo una piastra sopra il marmo e c'ho uno e uno di stazionario e radia benissimo, immaginate che sento anche Alghero, ok, ho fatto la prova io l'altro giorno ascoltando Alghero a 430 e 100 con quell'antenna nella finestra, tu mi dai il ripetitore e vabbè, però sento benissimo, anche in reverse sento benissimo, Santiago 2 ma sento. Domanda per Natalino, che antenna è quella sulla base magnetica del frigo? Una Maldol mi sembra. Sì, è una Maldol 5 ottavi VU. Quanto è lunga? Un metro e mezzo sarà. Allora non è, ci sarà 2 per 5 ottavi se non addirittura 3 per 5 ottavi. Per esempio la SG7009 che ho io, la coppia, non è originale, non è diamante, è lunga 1,53 m, sono 3 per 5 ottavi. So che è pesante quella SG7009. Però per dire, costa carburante nel veicolo richiamano più di larga banda, per esempio adesso 4 watt, no? 4 watt lì, no? La SG 7009 ha 1,4 massimo, 1,4 non 4 watt in UHF. La NR 770H che è lunga un metro, quindi sono 2x5 ottavi, 1,2. Cioè sembra che quelle veicolari siano più di bocca buona per il TMR, invece quelle da base siano più strette di panna, non lo so perché. Sì Sandro, sì, ma forse hai ragione tu, 2x5 ottavi se non anche 3, non me la ricordo, comunque non altro, dimmi sa, non lo sa, sempre tra il 5 e il 6, adesso sei 6 pieno. Qua è sempre 5. Sì, però, ho già dico che alcuni lavora brutto l'antenna, sia che ti prega anche tu, Ma io? No, Sandro, sto dicendo. Infatti, ti mendi, Sì, sì, che ti sento perfettamente, non ci sono problemi, ti ho detto. Vedi con Giulio che è più vicino, se il segnale è diverso, Giulio, non lo so. No, 7609 è qua, va benissimo comunque, la radio è forte, va molto bene, 7609. Non so cosa sta facendo, riprendi Natali. Adesso vedo un po' di metterla nella finestra con la staffa, come mai tutto con la piastra di ferro. Ma penso che non riesca. Per riuscire bisogna attaccarla al tubo con una staffa lunga. No, è già esce. Meglio di così, è già esce. Io non ne ho staffa. È su una piastra così appoggiata e funziona benissimo. A prescindere che la zona mia è diversa dalla tua, va bene. Però meglio di come esci, perché io ti sento da dentro casa, capito? Ti sento, lo abbasso, lo squelci me lo apri, quindi se tu non riesci a metterla fuori hai una maggiore resa, quindi provaci pure che ti senti anche con Giulio. Non dico che devi arrivare a fondo scala, ma l'importante è sentirci giusto per avere un qualcosa di diverso. Non è che dobbiamo fare questo o lì, lo facciamo qua, come facciamo sempre. E vediamo. Freddo fuori ragazzi, adesso che mamma mia, io lo so, c'è freddo. Mi sa che tocca tendigliare un riscaldamento. Esagerati, dai. Sì, sì, un buco, tu, non vieni qua. Non vieni qua, già ho cambiato il sistema, finestra chiusa e c'ho anche la casacca pesante, io mai, mica non soffro freddo. La finestra aperta c'è freddo, capito? Che non mi piace essere intubato, mi piace che giri l'aria, però l'aria è talmente fredda che ho chiuso. E la giornata non è che sia così bella, perché vedo che ci sono gabbiani a terra, quindi sicuramente piove stanotte. Gabbiani a terra, qua è tutto grigio, mi da te com'è Giulio Ripunti? È molto ventilata la giornata, è anche freddo, diciamo, dai. Questo momento è anche abbastanza freddo, per cui non sono uscito per niente, nemmeno stamattina. Allora, finestra chiusa, 19 gradi interni. Ma fai un buco, fai passare il cavo nel telaio della finestra, Marco. Ma cosa ti costa? Un buco non è che rovini niente, no? Un buchettino con un trattolo da 8 mm, ci infili il cavo dentro e poi il piede, ci infili il cavo e poi non smetti il piede. Ordini, come si dice, va? Ma non mi viene il termine, dai. Ordini superiori. Quello, gli ordini superiori, niente buchi. Io invece per il 213 ho sfruttato quel foretino di scarico che mettono sempre in queste case vecchie alla base della finestra. Ci è passato perfettamente, c'è un tubicino, no? Tutto. E ci è passato perfettamente il 213. Però non ci passa altro lì. Dovevo tenere un po' così. Poi quando c'è freddo di notte io cavo lascio fuori e chiudo, ci mancherebbe. Appunto, ma è un fuorettino da niente che non si nota, cosa ne fa? Lo fai di nascosto, prendi il trappa, non ce l'hai un trappa, di nascosto. E quando è addormentata, è riscuote nemmeno, guarda. Immagino da 32 io, eccola io, nella finestra, un po' a 32 c'è per tra i capi. È brutto se se ne accorge però. Non se ne accorge, dai da me, non se ne accorge, lo fai nell'angolo, lo fai, non se ne accorge, guarda, ti posso garantire che non se ne accorge. Siccome non fa rumore in trappano mi. Lo fai quando non c'è o quando è addormentata, cosa che ci vuole. Però ti do un succhiello a mano, ti do, lo fai a mano, non fai nessun rumore. Come quelli che usano gli ergastolani mi, per scappare dal carcere, dai, per fare buchi nel muro. Vai Natalia. Ma San Giulio c'è anche il trappano di domano vedrami. Come la bunta in legno, già mi trovate la di pum, a posto. Sì, cioè mi riferivo al trappano a manovella, non al ciucchiello, al trappano a manovella, io. Già me lo ricordo. Però non esiste, ma con l'elettrico si faceva a manovella. Girabecchino si chiama. Cioè non molto ci vuole. Prendi lo stereo, accendi la radio, lo metti un po' a volumi alta, nel frattempo prende il trappano un buco. E non si accorge. Sì, c'è, cos'è questo? Oh, ma il QRM. C'è la radio. Ah, a lei che le piacciono le musiche nordate, che sì. Di buone un CD, capito? Di buone, di guffi, ascolta ma questo CD nuovo che compra, ascolta però, almeno per 5 minuti devi sentire per capire bene se ti piace. Tu nel frattempo bassi la tanta, a posto. Le punte grosse ce le ho io. Sì, già. E qua il muro. Quanto sarà? No, vabbè, non è un problema, dai. Oh, già chiamo mia zia, lei c'è tutto. Cioè, mia zia sa fare il falegname nel suo piccolo, l'elettricista, l'idraulica, l'ibianchina, quasi la muratora non si può dire, quasi il muratore, quasi, però mio zio è più bravo. Sa fare tutto, è un mascio mia zia, capito? Non ho compreso che ti ha pigliato poco la gappa. Un minuto di pausa. No, quella è mamma che ha incendiato la cucina, capito? Che ha messo un po' di roba infiammabile vicino ai fornelli e ha pigliato il fuoco. Quello è. Ho capito, ho capito. Va bene. Vediamo un po' Sandro, cosa hai combinando. Sandro. Nulla, Massimiliano, ripreso ti sei. È un pendaffarato, il tuo bestino è un pendaffarato. Va bene così. Vediamo un po' se c'è Giuseppe Nalghero e vuole sentire la radio. Attento Giuseppe, ancora nanna sì. Adesso è vero che siamo lì perché sono le 5:30. Ancora non è entrato. Sarà più tardi magari. Così vediamo se lo sentite meglio, almeno con la radio di radio, perché il segnale non abbiamo cambiato niente. Avanti Natali. Figlia. Io purtroppo non la sento a Sandro. E arrivi Santiago di Pinocchi, come fai a sentirlo Natali? In campagna con l'antenna interna, vediamo se riesce a metterla fuori. Appoggiata all'albero, questa Grand Prix. Nascosta tra le foglie. E almeno mi metti esatta. Se lo state in chi, è già stato un tralicio a 50 metri. Ma lui abita in una villa singola? In una casa singola? Allora, a casa dei genitori sono lì a San Giovanni. Una casa grande, con terreno, tutto, giardino. Lui, avevo dovuto domandare permesso a nessuno. Chiamato dello scavatore, io, dammi un printo. Grazie a questa antenna. Come quel radioamatore olandese, Claudio, una cosa spaventosa, sembrava l'ARP. Questi tralicci enormi, i più alti dei pali dei tralicci dell'elettricità, tutto di poli. Sono spaventato, mi ho detto all'anima. All'anima, ma doveva essere ricco sfondato, No, vabbè, non sto parlando di roba amatoriale. Sono in campagna per fare attività CB, sto parlando della CB. Per me avrei fatto fare un printo con un tubo. Capito? Un tubo di quelli dei pali di luce. Capito? E poi da più porto l'antenna la manta va sopra. Ma i genitori non vogliono. Se non vogliono, non hanno proprio i genitori sardi. Perché ci sono la mamma e il padre morto. Però lui li ci abita, capito? Di passaggio, quindi può succedere qualcosa, no? Perciò è meglio che ci sia lui. Io lì, mamma mia, mi piace poco, ogni volta che mi porta, che io fai cambio, mi ha tomato se volevo rilassarci, che mi prendo questa. E cosa teme allora, i vicini? Se non te ne è piazzata bene, non deve essere almeno un palo autometrico. E se chiedono i vicini, sì, non viene, mio figlio parla con la radio, da di là fuori. I vicini sono una maledizione, bisogna essere un eremita e riempirsi da terreno di antenne. Rientrato. Non ha problemi i vicini, ti ho detto lui, è che non è grave, va in gloria, è sempre impegnato, sempre puro, non ne frega niente. Capito? Cosa vicini, non ha problemi i vicini, sanno. Assolutamente. È che non interessa, non è messo, se no già. Io l'avevo appiazzata lì, appoggiata giusto per fare delle prove, capito? Ma lì mi arrivava 9.25, 9.30, sembrava Sasse. Anche perché ce l'ho davanti io, quindi. Ma no, non mi interessa e quindi non li ha messo tutto lì. Avanti, Giulio. Ok, sì. Sì, perché così non è più interessato, per cui... Va bene, anzi, se c'è qualcuno che è interessato all'acquisto di qualcosa, sappiate che sta vendendo un po' di cosa, e ne ha tanta, ne ha tantissimo. Ma c'è ancora Sandro? Sandro, ci sei? Non devo essere a pranzo in campagna, perché siamo visti quando siamo rientrati dal vero, capito? Tanto per i miei sigaretti di San Giovanni, tanto la macchina di Massimiliano era lì, e quindi siamo visti con Sandro, forse da pranzo lì. Capito? Sì, sì, lo so che sta venendo roba, sì. L'ho venduto anche io già, non ce n'è problema. Qualcosa già se la tiene, questo inverno magari le capita di voler fare due chiacchiere e sa dove andare a prendersi la radio. Beh certo, sì, beh, non credo che si diventi appiedato del tutto, non credo proprio. Comunque, lui vuole disfarsi delle cose che magari non utilizza, ed è anche giusto, se non lo utilizzi tutto sommato che cosa se ne fa? Basta che ti tenga quello che vi interessa e va bene lo stesso, problemi non ce ne sono. Bene, bene, bene. Natalini, riprendi. Figlia, sono qui, cara Cristina. Non è voglia, se non l'avrei già fatto quell'affare di vedere se mi sentiva con quella collineare per la macchina. Sto dicendo che ti sento, vai tranquillo, come ti avevo detto l'altra volta quando usavi il baracchino, primo periodo che ce l'avevi dentro, tu mettila fuori questa antenna che almeno migliora, hai visto che avevi migliorato. Furi è sempre furi, no? Quanto prendi di segnale? Anziché arrivare uno arrivi cinque, qual è il problema? Ma riesci a sentire almeno? No, a sentire sento già. Allora, tranquillo che se senti riesci anche a trasmettere meglio, tranquillo. Domani mattina, adesso non dovrei fare niente. Domani la prendi e la metti fuori. E tu vedrai che mi fai un colpo di telefono e facciamo subito la prova, intanto gioco a casa, no? Quando vado al mercatino presto, se non piove, se piove mi rimango a casa a rilassarmi. Così ti togli il dubbio, no? Capito? Avanti Marco. Quindi facciamo il quadro della situazione, Nazarino. Tu a Giulio non arrivi, ma con quanti fatti? Al massimo. Addirittura, con quello bello che piace a me, col grande display. Aspetta, non me l'aspettavo, no? Non me l'aspettavo, eppure sono abbastanza, diciamo. Ma la colpa è sua, amico, perché lui esce con la col gommino, è logico. Se lui avesse l'antenna fuori, li arriverei tranquillamente, come arrivo a te, come arrivo a Claudio. Ma Giulio ce l'ha però fuori, forse se non la vuole usare. La usa per il ricevitore, quella lì. Ah, paghisso, non capisco. Ho capito, dai. Vabbè, che te devo dire, Antonio? Buttiamoci tutto, eh? Vabbè. Vai, Claudio, tiraci su tu. C'ho la moletta, c'ho anche i dischi per tagliare. Maledette frequenze. Marco, ci vorrebbe una mongolfiera, attaccare un'antenna da mongolfiera regolata a rimanere ad una certa altezza, così almeno problemi non ce ne sarebbero. Allora mi bastava un pezzo di filo. Giulio, quel progetto lo voleva fare, non so se per la 27 o per le decametriche o Antonio Grotte, pigliare un pallone aerostatico, allacciare a una certa altezza, non so 10 cm, un'altezza X, e usare un dipolo, il positivo del dipolo che sia sottile, ovviamente se non è pallone non, un filettino di rame, tanto da far alzare il pallone, capito, riempito di elio, e aveva progetti interessanti Antonio, ma poi alla fine non è realizzato, non c'è la collaborazione da parte nostra. Probabilmente infatti non c'è stata collaborazione, perché le idee già c'erano, non so, però ci vuole anche collaborazione, soprattutto ci vuole tempo anche per fare certe cose, perché non è che si fanno così da un momento all'altro, ci vuole un po' di tempo, studiarle, farle nella maniera dovuta, certo. Vabbè, domani quando sembra piove, mi sto guardando il meteo in questo momento, sul Rai 1, ed in Sardegna piove, a nord Sardegna piove, non si sa se piove a Sardegna, ma suppongo di sì però, questo vento le sta portando l'acqua, vai qua. Sì, sto guardando io, meteo Sassari domani, te lo dico subito, cacchio ragazzi. Già da stanotte, e domani forte pure, con 4 barre, madre di Dios, già da stanotte con 3 barre, ok, pioggia, c'è proprio scritto pioggia, e vabbè, la pioggia ci vuole, noi la facciamo scendere, a me non mi dà nessun fastidio, da oggi in poi, almeno, signor, per 20 giorni non mi dà fastidio. Perché da domani sarai in figlio, ho capito, meglio così, sì, poi martedì dovrebbe piovere adesso, questo torto lì, quella zona lì dovrebbe piovere, almeno stando a quello che ho visto sulla grafica qui del Rai 1. Vabbè, comunque è meglio che piova, non c'è acqua nel bacino, è meglio che piova, dai, per cui, se no facciamo la fine veramente che dobbiamo comprare l'acqua, anche per lavarci, non solo che per cucinare, se continuiamo così, vabbè, dai, avanti Marco. Come ho visto fare in Africa, a me, tipo Centrafrica, che non avendo acqua dovevano lavare i bambini con le bottiglie e l'acqua data dai volontari, no, dagli aiuti umanitari, perché se non c'è acqua non si lavano, semplice, mamma mia, e purtroppo la Sardegna è così. Ci stiamo anche tropicalizzando, anche sia come temperature sia che nei mari piano piano, per via delle navi, no, che scaricano l'acqua di zavorra, stanno arrivando delle specie invasive che sbilanciano il nostro sistema marino. È arrivato anche quel pesce, come si chiama, quel pesce, e i vari pesci, che meduse che da noi non c'erano, tutte, diciamo, specie invasive, capito? Sta cambiando proprio l'ecosistema. Pazienza. Ok, sì. E vabbè, pipì. Sei turista, ho capito. Per 20 giorni mi ha detto. E dopodiché, ma non riesci più al lavoro, ti fai le ferie e poi sei di pensione. È andato a fare la pipì. No, ha detto che c'ha pochi giorni. Pochi giorni, tipo meno di un mesetto. Se non ho capito male. Ho capito, e vabbè, allora praticamente è arrivato, dai, è arrivato anche lui. Avanti Natalini. Io te lo immagino, più piccolo di me se ne va già in pensione. Caspita, quanti anni ha lavorato? Pensavo che aveva detto che aveva iniziato 15-16 anni, perché 15-16 anni, quando ha 58, fatti il conto quanti anni sono passati. Solo che c'è un problema, Natalini. Gli anni che ha lui, e che hai anche tu, tra l'altro, non sono ancora arrivati agli anni che ho lavorato io. Voi immaginate, fate conto, perché io ho lavorato sino a poco tempo fa, per un totale di anni 62, per cui bene, insomma vai a dire, colpa mia che sono venuto prima, quello già è vero, no, è colpa dell'anagrafe, non è colpa mia, è dell'anagrafe. Avanti Natalini. Sono rientrato. Eia, ma veno di magnati bani, a quando arrivi a chi su che hai fatto giù. E di chi tu dosi buru. Statisticamente ha provato che, vabbè non lo dico là, comunque, quello che mi ha detto l'Inps. Allora Giulio, io ho iniziato a lavorare il 26 di febbraio del 1976 in una società che si chiamava Quattro Mori SRL di Porto Torres come apprendista, ok? Ho anche sconfinato, per l'Inps ho già sconfinato, ecco perché posso andare due anni prima, ho già sconfinato, nonostante non abbia l'età, ho già sconfinato gli anni di contribuzione. Sì, appunto, quello che stavo dicendo, però nonostante tutto gli anni di contribuzione e gli anni che hai tu, reali, di vita, non hanno ancora raggiunto gli anni che ho lavorato io. E che magari di tanto in tanto continuo a lavorare, magari per altre cose diverse, però pure dall'attività principale, quello che intendevo. Beh sì, sei più grande, quindi chiaro, c'hai 20 anni più di me, perciò. E così, ma io mi sono fatto a fare da ragazzino e oggi mi posso vantare di aver l'atto, nonostante tu sia più grande, io l'atto. Tanto l'atto, quanto te, ho l'atto tanto, ma tanto, tanto veramente. Ok, sì, io adesso, no, sono già da ieri in ferie. Ieri ho consegnato il badge ieri mattina, quindi sono in ferie da ieri fino al 20 di novembre, poi do gli 8 giorni, rientro per 8 giorni, e statisticamente dal 1 gennaio 2018 sono in pensione. Ok, va benissimo. Giuseppe, vogliamo dire qualche volta quando magari la mattina non esco, ma sarà difficile perché di solito esco tutte le mattine, però diciamo che c'è anche quella possibilità. Va bene, avanti Marco. Aspetta che c'è Giuseppe. Giuseppe l'avevo già letto, cosa complimenti, lo sapevi già. Così me ne sto ad Alghero e andiamo a passeggiare assieme. Bene, va Giuseppe. Hai visto, proprio contento. Ehi, non ti preoccupare. Avremo modo di vederci di più rispetto ad adesso. Come lo senti Marco di radio? Meglio di prima? Sì, è più forte, ma sta parlando troppo lontano dal mic. Molto effetto camera. Leggermente avvicinati Giuseppe. Non molto, avvicinati leggermente al microfono se ce la fai. Sennò lui si rilassa, capito? Sta nella poltrona. Prova Giuseppe. Ottimo Giuseppe. Una bellissima radio, almeno il segnale non è molto alto, ma la radio è buona. Aspetta quando ti termino quel lavoro, come abbiamo deciso stamattina, devo uscire da Ghiscio Bunker. No, ti faccio uscire io, già abbiamo radio, amplificatore e microfono. nemmeno di radio, Giulio. No, no, assolutamente, non lo sento per niente. E sicuramente non mi sente nemmeno lui. Provate a chiedergli se mi sente, ma non credo, perché io non lo sento proprio, anzi non muovo nemmeno l'ago. Attento Giuseppe, dimmi se mi ascolti, anzi mi farà da Ponte Claudio, vediamo un po', poi casomai prova anche Natalino se lo sente. Avanti, qua, chiedi se mi ha sentito. L'hai sentito Giulio Dollaro, Giuseppe? Ho capito, non è anche sganciato. Va bene, va bene, no, non vi sente, né a te né a Natalino non vi sente. E vabbè, dai, vediamo un pochino Giuseppe, ti ho detto stamattina di fare troppo questo, l'altra roba l'hai staccata o l'hai lasciata ancora attaccata? Giuseppe, quello non dà fastidio, può essere anche attaccato lì, ok? Se ti piace tenerlo lì, si mette un'altra antenna singola nel poggiolo e te lo collega col baracchino per farti due chiacchiere in città, va bene? L'antenna grande si usa senza commutatore col cavo nuovo diretto al baracchino nuovo, punto e basta. Tutto il resto non dà nessun fastidio, Giuseppe. Il problema è avere l'antenna diretta senza commutatore con la radio che tu hai attualmente adesso, quello è il problema, col cavo nuovo e PL tutti nuovi. Quello te lo faccio io, te l'ho promesso, vengo a costo di pranzare ad Alghero, però devo iniziare dalla mattina presto, come mi hai detto tu, di martedì, perfetto, di martedì si organizza, io vengo dalla mattina presto, ti faccio tutto il lavoro che c'è da fare e poi me ne rientro a Sassari. Perfetto, già ci mettiamo d'accordo, adesso fammi organizzare, fammi rilassare soprattutto e poi non ti preoccupare, già arrivi lo stesso, ti ho detto fai passaggi corti e non c'è problema. Avanti Marco. Vedi Claudio, mentre prima il segnale è medesimo, 5 e mezzo modulato 6, però prima va radio bassa, adesso la radio c'è e si capisce quello che dice, cioè si capisce meglio quello che dice, magari tenendo l'orecchio si capiva lo stesso, però adesso è molto migliore, buono, buono, poi quando finirete il resto salirà di segnale, vedrai che salirà. No, ma non ho dubbi, ho fatto un bel cavo, ho messo tutti i piedi nuovi, eccetera, già qua e il segnale, vabbè, è rimasto uguale, però la radio è a uno, ce l'ha, c'ha le MB più 4, ce l'ha a uno e mezzo, una cosa del genere, perché se non rimbomba troppo, perché lui ha uno di quei baracchini base, un Telsat SSB, che è favoloso come modulazione, capito? Quindi spinge molto. E con quel microfono è un buon abbinamento, va bene per lui, almeno non c'è bisogno di tenerlo in mano, eccetera, eccetera. Appoggia il dito e parla tranquillamente, no? Non ha problemi. Va bene, avanti Giulio. Ok, facciamo anche a Natalino, che c'è Natalino anche, che ce lo stiamo dimenticando. Natalino, riprendi. Non c'è problema, capito? Non c'è problema. Stavo guardando roba al computer. Quello stai guardando, antenne stai cercando, eh? No, sto guardando un simulatore di volo. Andava, così già va bene, dai. Anche quello è un passatempo. Riprendi Marco. Non me ne parlare Giulio, che io ieri ho aperto il sito Media Globe e mi sono guardato tutto, tutto, dall'A alla Z. E ti dico che c'ha dei PL in bacchellite che mi servono. Mi pare costino 1,80 l'uno. PL in bacchellite mi servono almeno 4. Per cavo piccolo e un paio per cavo grande. Poi ho trovato adattatori di tutti i tipi, da SMA femmina a PL femmina, da SMA maschio a PL femmina, cioè sarebbe l'SEO 239, no? Insomma, devo ordinare un bel po' di spinotti, sia adattatori, sia PL, poi per usi futuri 5 metri di H100, come si chiama, 155, tante piccole cosette, vedi? Eia. Vedo che è ben fornito e quasi tutta la roba che interessa a me è disponibile, quindi adesso dopo i due vediamo cosa c'è. Ok, va. Guarda che l'H155 ce l'ha anche Fusaro, avevo chiesto io da poco, ce l'aveva. ce l'aveva anche lui, per cui se proprio ti interessa il cavo ce l'ha lui. Sì, no, pensa che io ho due PL, proprio di quelli professionali, quelli a miela, che si piazzano addirittura, si stringono con due chiavi, addirittura per stringere come si deve. Non li ho mai montati, non li ho mai montati. Li avevo fatti arrivare e costano 4,90 l'uno, mi sembra che ho pagato, grosso modo. Sì, 4,90, ma ce l'ho già un annetto più o meno, forse anche di più. Non li ho mai montati, sempre pensando, beh, oggi li piazzo, domani non li piazzo, e se è passato già un anno e ancora non li ho piazzati. Quindi ti ho matto. Poi anche PL già ne ho, anche in macchinette, no? Ma sono di vecchissimo stampo, però sono sempre buoni, questi sono utili. Avanti qua. Sì, beh, io quando ho fatto i lavori su nelle direttive dei coci, io li avevo prima, perché negli attacchi delle antenne, soprattutto delle direttive, ho seguito le direttive di Marco, Scorpio, che appunto lui non ha mai usato, non usa soprattutto questi agganci, queste cose a PL, quindi mette gli occhielli a cavo diretto. E così abbiamo fatto. Però qui all'interno uso gli ANFE, no? Almeno nelle direttive, capito? Ho preso un pacchetto su Incontinente, un pacchetto da 5, mi era costato 12 euro, una cosa del genere, da 5, 12 euro, sono un po' costosi, li ho usati, ce li ho qua dentro, quello dello spettone, il cavo di discesa dal commutatore, la Meritrong ce l'ho appunto collegato su, diretto su quello, e perciò sono fino a quello, il connettore, quello appunto dell'amplificatore, quello addirittura il cavretto originale del PL922 che ha i due PL testati, spettone da 1,20 m, di meno, non so, mi ricordo comunque, aspetta, passa via, e lì ci sono i PL tipo vetro, Giulio, ad alta temperatura, quello per uno spettone originale che mi era arrivato col PL922, ce l'ho sempre, però il discorso è questo, i PL devono essere buoni, o su o giù devono essere buoni, mai usare quei PL del cacchio di plastica, perché solo a puntare il saldatore si sciolgono, non servono a niente, ti mandano in corto tutto. E pensa che da Fusaro li pago lo stesso prezzo di quei PL in bacchelite, quelli di Mediaglobe, che sono dei Marcucci, si è specificato. C'erano quelli importati da Marcucci, non so se sia una cosa positiva o no. Comunque un bel di adattatori, una marea di adattatori, soprattutto per queste radioline, no? A Uma Uma. Aspetta che è arrivato il padrone di casa, cosa c'è, no? Cosa c'è? Cosa c'è? Sono puntuale. Manco, cioè ha cambiato l'orario, lui sempre di dura deve mangiare. Fatemi 5 minuti che devo mangiare la bestia. Lui non ce l'ha l'ora legale, è incorporato. È venuto qua con la zampa, dicendomi, ma non lo vedo, io ce l'ho già cambiato l'orologio, sono le 6, ma sono le 6, orario nuovo, già è nobile, vado a dare a mangiare poverino così, si siede un attimino da una parte, dai. Riprendi i tatali. Ok, dai, io me ne faccio Guerix un attimo che devo guardare questa cosa. Venga, dillo a me, cosa ti serve che te lo ordino io. Oh Giulio, perché va bene, da una parte è peccato che domani piove, ma pazienza, ce ne siamo in casa, a calduccio, fa anche bene all'agricoltura e ai bacini se piove, poi se piove tanto è meglio, che riempie i bacini, mamma mia, che da noi piove sempre poco perché siamo troppo di passaggio, cioè le nuvole non riescono a trovare una barriera come monti, alpi, e quindi passano e vanno via, e per questo piove poco da noi, vero Giulio? Sì, beh, in effetti In effetti, sì. Beh, lo sappiamo, qui in Sardegna, soprattutto Sassari, non è una città molto piovosa, per cui ci dobbiamo accontentare, anzi, per noi è una festa quando piove qua, però è necessario piovere in questo periodo, ma non tanto qua a Sassari, soprattutto nelle campagne, soprattutto nei bacini, perché acqua non ce n'è più. L'altro giorno ho sentito che a Bidirinzu non c'è nemmeno il 40% di acqua, quanto sembra. E perciò è solo questo il tempo. Se continua così ci chiudono i rubinetti veramente, perché non arriverà acqua. È vero, è vero. E vabbè, nel caso dovremmo fare scorte di acqua. Anche quei bottiglioni di acqua da, quanto sono, 5 litri, è presente quelle specie di bottiglioni a base quadrata, damigianette, come le vuoi chiamare, da 5 litri. Ah, scusa Giulio, un attimino che scappo in bagno e mi devo soffiare il naso. Ce ne hai pochi, eh? Ecco, mi sono rientrato e proprio mi stava scendendo il moccio, ho soffiato. Ho visto che lì sono assortiti, c'è un po' di tutto, no? Sono microfoni, ci sono quelli con la plastica nera, tipo cavi audio, non so. Sì, sì, sì. Hai visto, ma questa è solo una parte lì, poi questa è dalla scatola che ne ho tolti, ne ho fatto la fotografia. Ma se poi apro un cassetto, in un'altra scatola ce ne sono altrettante. Per cui, come vedi, Avuglia, PL che mi manca a me. Ma non sono PL, un po' di tutto. Se poi passiamo nella scatola delle elettricità, c'è di tutto. Spine, prese volanti, spine triple, interruttori, cos'è che c'è? C'è tutto, c'è. Lei sono ben attrezzato in tutte queste cose, Marco. Ma avevi fatto una videochiamata, qua mi risultavano due chiamate perse un minuto dopo l'altro. Sì, per errore, sì, per errore. Perché due per errore, non mi ricordavo come dovevo mandarti la fotografia e allora poi ci ho ripreso tutto un attimino e poi ho fatto giusto. Via. Nathalie, dimmi cosa ti devi comprare, io dillo a me. È irremovibile Natalino, quando è impegnato una cosa non molla. Natalino, è lui quando si immerge all'interno di un computer e così così lo molla. Lui, per carità. Sì, diciamo che Marco, tornando al discorso così, assortimento di PL e cose varie, un po' di tutto veramente, guarda. Poi non parliamo di file, pinetti, spine, tutte queste cose qua. Poi non parliamo di telefonini, ne ho una marea. No, poi non parliamo di radio. Radio ne ho, mettiamo, 20, 23, 24, una cosa del genere. Tra radio grandi e radio piccoline, di tutto, di tutti i tipi, anche di più. Poi ho anche sei radio di quelle valvolari, di quelle antiche, addirittura tre di questi o quattro, se ricordo bene, c'è anche il giradischi, con lo sportello, apro lo sportello sopra e c'è il giradischi. Ce l'hai, ce l'hai? Sì, poi me ne interessa, cioè ne avevo uno e mi è sparito, non so dove possa essere finito, era da SM femmina per il PAO, SM femmina e PL femmina, che sarebbe l'SO 239, quello lì. Poi c'è SMA, doppio SMA femmina, doppio SMA maschio, che quelli ce li ho già. C'è ben fornito Media Globe, poi la roba costa meno degli altri, lo sai. Ma degli altri, sia radio sia antenne, da certi costano molto di più, tipo AM Radio Shop, i prezzi sono belli gonfiati, eh. Ok. Poi sempre parlando di PL, ne ho altri 5 o 6 spezzoni di quelli che si usano con il rosmetro, sempre intestati con i PL naturalmente, che si aggiungono una decina di PL anche da 15. Una marea di cose, Marco, qualche volta mi ho anche eliminato, poi non parliamo di riviste, ad esempio ho delle riviste che sto buttando, le voglio buttare perché sempre per questione di spazio, poi ce le ho in bottega, infatti me ne avevo portate più che per buttarli. Addirittura riviste di elettronica, tipo che so io, CQ elettronica, elettronica pratica, tutto questo tipo di riviste così, no? Ma ho riviste del 55, del 56 più o meno, sino ai giorni d'oggi, fino a qualche annetto fa, per cui ne ho tantissime, ma tante veramente, e le voglio buttare, no? Tanto ormai non studiano più, non lo guardano più. Poi sai cos'è, la carta stampata prende un saccaccio di spazio. Io avevo fatto una specie di enciclopedia degli hacker, tutta robetta che spiegava trucchi, ma poi c'ho questi barragioni di volumi, tutto ci ho buttato, tutto. Non fa proprio. Caspita, il 52, non riceva manco la 27, nemmeno in America, se ti fidi, c'era la 27 mega in quegli anni, caspita. I radiatori avevano roba esclusivamente autocostruita, roba solo in kit, ma roba proprio primordiale. Sì, ho buttato ogni giorno uno scatolone pieno di valvole elettroniche, di TV e anche di radio, eccetera, proprio li ho liberati, li ho portati all'ecocentro. Avanti ieri ho buttato anche un alimentatore da 2,5 ampere, non me ne facevo niente, solo perché si era rotto il vetrino davanti, funzionava. E ne ho anche altre due botteghe che sicuramente li eliminerò anche qui, no? Cosa me ne faccio? Tutte queste cose. E qualche giorno fanno piazza pulita anche di un po' di baracchini. Microfoni poi non ne parliamo, microfoni ne avrò una quindicina di microfoni di quelli al mare, no? Infatti anche due ne ho trovato in bottega ieri, che ne avevo tolto uno spinocchio evidentemente e avevo già pensato di buttarli, sono due microfoni normali, normalissimi. Uno dovrebbe essere delle Vintec 34S, se ricordo bene, e un altro non lo so, no? Insomma, ma le vengono fuori cose, tanto sono tutte cose che non cerco mai, e avere delle cose, non cercare cose, equivale a non averle, è come non averle, guarda, sto facendo un po' di pulizia, insomma. Sì, infatti, anche come certe librerie, che una libreria enormi, e poi alla fine legge ben poco. Io poi leggo poco, leggo molto poco, nonostante ciò, cioè non leggo molti libri, anzi non ne leggo, salvo qualcosa di tecnico, no? Però leggo molto di più lo smartphone, però mi cala la vista, mi sta calando paurosamente la vista, soprattutto l'occhio sinistro, che era astigmatico poco, adesso sta aumentando l'astigmatismo. Sto aumentando di brutto, me ne accorgo. Quando guardo la TV con l'occhio sinistro solo, tappando l'altro, la palpebra. Vedo male la TV, quindi mi farò entro breve gli occhiali, Giulio. Claudio? Di nuovo che so, dai, che ho fatto mangiare a Pippetto. Oh, Madonna santa ragazzi, cioè sono le 6:10, buio presto, mamma mia, che brutto. Giulio, dammi dritte, cosa devo fare? Il tempo come si impegna? Come si impegna il tempo? Guarda, nel primo periodo, nel presentare, non ci sono dubbi, perché hai una certa abitudine al lavoro, per cui ti manca qualcosa. Prima che ancora a me oggi, nonostante che di tanto in tanto mi avvicino sempre a fare qualcosa, a te adesso perché mi sono impegnato col fatto del magazzino, che sto liberando tutto, non voglio ristrutturare, prevenino appunto per fare l'ufficio per mia figlia, eccetera, eccetera. Proprio per tenermi impegnato soprattutto, se non l'ufficio mia figlia ce l'ha fatto a casa, ce l'avrebbe lo stesso, ma alle volte può servire anche quello, tanto più che cosa me ne faccia. E cosa vuoi dica? Io so solo che ho una segnalazzo che devo eliminare e non riesco a regalarla. La munizione. girato a 380 volt con un motore straordinario, con una funzionalità perfetta, nonostante che è antichissima. Lo metto. Ascolta, ma perché non lo porti da Gianfranco giù a San Marcanda? Non te la farebbe, no? Cioè, non venderla al miglior offerente, boh. Ma non lo so se lui la vuole, cioè, sarebbe intenzionato di andare da qualcuno di questi, di Portobello, eccetera, ad esempio, per vedere se lo... Perché a me mi interessa più che altro che me la tolga un evento, perché non è che la prendi così, la carichi su un motocarro e te la porti via, ci vuole la gru, perché pesa una marea di quintali, non è poco, no? E ci vuole la gru e un camioncino per portarla via. E solo per quello magari una gru vorrà sempre quelle 200 euro solo per portarla via, per agganciarla e metterla sul camion e trasportarla. Per cui no, stavo pensando a trovarci un amico lì, quello che aggiusta le barche su un vicino quadrato, che siamo amici da tantissimi anni, da almeno 40 anni. E lui una volta ce l'aveva, ma che ne fargli venire in officina, ma ce l'aveva perché le aveva ritirate da una persona che non aveva pagato, allora in cambio gli ha dato quello. E gli volevo chiedere se la voleva, così lui viene, se la carica e se te la butta, perché se lo vede a piedi mi dà fastidio, ecco. Non la userò mai più, capito? Anche se, ripeto, la macchina funziona bene, potrebbe anche capitare il momento che la devi usare, ma posso arrangiarmi lo stesso, in altro modo, anche se dovesse averne bisogno, capito? Ah, la Murruzzo sta dicendo, sì, lo conosco anch'io, anche il figlio lo conosco. Beh, vedi, chiediglielo, perché lui c'ha il camioncino con la gru, la mette sul carrello e si te la butta. Chiediglielo. È una cosa storica quella, capito? Ma io sono convinto che Gianfranco, no, va sempre del Portobello, ma Gianfranco c'è un bel locale lì in via del Porto Torres, dove c'era carbone, afferramento a carbone prima, là, di fronte a coso lì, come si chiamava? Vabbè, al pompista. E magari le fa piacere, te la può vendere, ha dei contatti, ma lui è molto ordinato, preciso, una bella pulita, hai capito? Prova, avvicinati prima da Gianfranco lì a San Marcanda, oppure vai da Murruzzo e gli dici questa cosa, peccato, è veramente un peccato, quella tanti anni di storia, quella sega circolare. E vabbè, a nastro poi, non è circolare, sega a nastro. Natalì, a te non ti interessa? La metti fuori, quelli che passano nel vicolo a uno, una lì mi segue un braccio, una lì mi segue un'anca, capito? Una lì si muove a pastecchini, andamelo a te. Vedremo un po' di riuscirò a fare. Cioè, mi sarebbe il mio nipote che fa legname, però non fa più lavori di una certa importanza, fa pasticci, fa tipo che so io, cornici, che so io, forchette, queste cose qua, non poi ce le prende nella bancarella, che fa piazzetta, fa con la bancarella, per i paesi, no? Ma comunque, vabbè, abita a Usini, non abita qua, lui abita a Usini, è sposato con una ragazza di Usini, abita qui. Sarebbe a vedere, là, prima o poi, però il modo di eliminarla, se non piglio la moneta, la taglio a pezzi. E della politica, a proposito, senza vedere di tagliare a pezzi, se non viene lo vanno a Marcello, e se la butta a Marcello, mica, adesso ci ho pensato. Ascolta, se invece io domani, adesso non aggiungo, se invece io domani lo dico a Andrea, non deve avere detto Andrea tu. Anche Andrea, perché no, ma non credo che Andrea ne voglia, lui, l'ho fatto lavorando, nemmeno lui, cosa, anche perché non sta molto bene, poveraccio, ci siamo incontrati un po' di tempo fa e ho visto che aveva dei problemi anche fisici nel camminare, eccetera, non credo che ne faccia più queste cose, sarà in pensione anche lui. Sì, sì, è andato in pensione all'inizio di quest'anno. Però col minimo, non ce li ho i contributi, cioè col minimo è andato lui, ma perché c'è per una gamba, per una cosa particolare. Riuscite a dare in pensione Andrea e non facendo impressione Gianni, ma mi sa che Gianni non vuole mollare perché la lira è molto bassa, eh. A me mi hanno fatto i calcoli, mi Giulio. Cioè, i calcoli mi hanno fatto via me. Forse perché, come ti ho detto, ho anche sconfinato. Quindi mi hanno fatto un calcolo particolare. Quando arrivo, quando raggiungo l'età, quindi a 67 anni, riesco ad arrivare ad una pensione retributiva di quasi 1700 euro al mese, figurati tu, a 67 anni. Adesso la retributiva con questo calcolo che hanno fatto, compreso lo sconfinamento, ok, che loro sono disposti anche a darmeli, però ci sono delle carte ancora da presentare, ma non mi interessa. Riesco a prendere intorno ai 1320 euro, non è male. No, è un'ottima pensione, forse, una buona pensione che ti consente di vivere tranquillamente senza nessun problema, certo. Sì, sì, va bene qua, e beh, d'altronde te ne hai lavorati e ti toccano. È una legge per cui se devono dare a Malaga ci mancherebbe altro. E allora, solo loro sarebbero prendere la pensione buona. No, no, no, no. Anche i lavoratori che hanno sofferto una vita intera di sacrificio, anche i lavoratori ne hanno bisogno, ne hanno diritto, anzi non bisogno, ne hanno diritto sacrosanto, per cui è giusto così. Bene, bene, bene. Avanti Marco. Sì, scusatemi, mi ero distratto, dai, stavo chiedendo a mamma cosa mangiamo oggi, dai. State parlando di pensioni e io già non la vedrò mai la pensione. Pensione te la danno anche a te, quando raggiungi 67 anni la danno a tutti, solo la tua sarà minima, la nostra è diversa. Ti volevo dire Marco, giusto per, tu madre è andata in pensione con 35 anni con la vecchia legge, 35 anni contributi all'età. No, che 35, meno, lei ha iniziato molto tardi a insegnare. 1.085 euro. Minchia che poco. No, la mia lorda a 67 anni è quasi 2.000, lorda 2.400, 2.500 euro. Lorda. Il conteggio che mi hanno già dato, che mi ha fatto l'Inps, mi c'ho già il foglio, c'ho già tutto. Quella però se ne parla fra 8 anni, fra 9 anni, 8 anni. Mentre quella di adesso, lorda, è intorno ai 1.700 lo stesso, netta dovrebbe essere, ha detto lira più lira meno, intorno ai 1.400 euro, ma se consideri lavorando alla fine delle 8, quindi con tutti i sacrifici che stavo facendo, poi c'è una minima mia moglie, perché lei ha lavorato 22 anni, e quindi è riuscito ad avere la minima, e anche lei, quando poi raggiunge l'età, le danno anche l'altra, capito? Però adesso lei c'è quella retributiva, l'ultima busta paga, è andata in pensione con la minima, intorno alle 400 qualcosa. Già si campa e dobbiamo campare così, e vedere vi fa. Che andiamo a avere Mattesi, l'importante sia Gesù Cristo, a godercela, se no pazienza. Vero tata lì. È impegnato, sta cercando roba su internet. E ha detto che rimaneva in Querix. Claudio, in realtà gli anni che ha fatto mamma erano un po' di più, però al provveditorato le hanno perso dei documenti, quindi anni gliene hanno conteggiati un po' meno, se no forse arriverebbe anche a 100 euro in più, 1180, o quanto ho detto, 85, 83, capito? E lei si è voluta rivolgere ai sindacati, no? In via 4 novembre, qui non so come definirsi. E uno ha detto, guarda che dai sindacati non ho... il cognato di Iva ha detto, guarda che dai sindacati non ottiene niente, deve rivolgersi a un avvocato. Mamma non l'ha voluto fare, si è fidata dai sindacati, infatti non ha ottenuto un cacchio. Quindi questi anni sono andati persi. pazienza. Mamma mia, no. Io ti ripeto, dal 76 a oggi ho sconfinato anche. E ti giuro che non lo sapevo neanche sino a quando, perché i miei calcoli erano dall'81. Invece dal 76, e c'è scritto, febbraio 1976, dal 76 all'81, io non mi ricordavo che stavo già lavorando. Mi ricordavo però che avevo iniziato molto molto presto, non ero maggiorenne. Effettivamente ho iniziato con questa società, Quattro Muri di Porto Torres, come apprendista, dal 76 all'81. Allucinante. Capito? Vabbè, no, mi devo avvicinare, Giulio, perché non mi hanno inserito, nonostante me l'avessero chiesto nulla osta di quando io ero in Marina, perché ho fatto il militare appunto in Marina, la scuola di vissuto ufficiale della Maddalena, ho visto che non c'è inserito e quindi ho chiamato venerdì e mi hanno detto in settimana si avvicini che glielo inseriamo. Inserito anche con i 24 mesi, lui, per carità, posso dormire su due guanciali, guarda, va bene, un natalino sto pensando, una vita lavorando col padre, boh, ma contributi non te ne ha mai pagato, babbo Duccio, non te ne ha mai versato. A me? A natalino sto dicendo. Non risponde natalino. Vabbè, vuol dire non vuole rispondere, perché anche lui ha iniziato, ha 60 anni, non è ragazzino, ha iniziato molto presto, io conosco una vita, sento che va lì, vabbè, no, io credete, io sono stato sempre molto attento a queste cose, molto molto attento, perché ne vale poi tutto il sistema pensionistico, quindi mi stare molto attento. Noi diciamo, vuoi venire a lavorare? Sì, e come ti assumi però? Io sempre, la mia domanda era sempre quella, vuoi ti assumo? Tu vai a lavorare o ti assumo? Va bene, io vengo perché voglio lavorare, però mi devi assumere. Non mi interessano i miei soldi, mi devi assumere, anche se tu a me mi assumi assicurato, non mi paghi, non me ne affutti nulla. Io sempre così dicevo, però mi devi assicurare. E me li sono ritrovati, credetemi che me li sono ritrovati, Giulio, me li sono ritrovati. Figurati che c'ho apprendista, barista, bar cristallo, Porto Torres, che non si chiamava manco bar cristallo, mi ricordo, però la scritta era quella, però. Capito? E poi c'ho anche apprendista al hotel Bisonis, anzi manutentore. Facevo un montatore in piscina all'hotel Bisonis, tre gioventure, ragazze. Se li hai lavorati è giusto per te ritrovare, quando hanno fatto le cose per benino è chiaro che poi risultano, già lo credo che risultano. Sei stato fortunato che ti hanno sempre assicurato, perché tanta gente ha lavorato per anni e anni in assicurazione e il dato di lavoro non ne hanno mai fatto, per cui non gli hanno mai prestato contributo. Perciò sei stato anche fortunato, avrei trovato sempre persone che ti hanno prestato contributi. Beh, vediamo chi è avanti. Buonasera, Valeri. Oh, ciao Valeri, ben entrato. Avanti, riprendi, c'è Claudio e Marco anche oltre a me. Aiuti a me, tra poco ti sentirò a posto. Buonasera a tutti. No, niente, mi sono andato via da mia sorella e se faccio un giro tra Sassari in mezzo al traffico e ti accampano. Riprende Marco. Marco. Un attimo, sto parlando con mamma. Tu ne hai di entrare ancora a Gami o in navi per andare in missione. Ciao Eugenio, ciao Valeria, buonasera, ben sentito, vieni avanti. Sì, manco se mi paghi, esci. Manco se mi paghi, stipendio pieno, mi muovo di casa. C'è qualcosa pure un banolino a Filippo, banoisci. C'è un freddo, sono in pigiama, il calduccio sta così bene. Beh, Eugenio. Eugenio, no, sto scherzando, Claudio, no, non uscire perché c'è un'aria fredda allucinante. No, non vengo solamente a farmi un giretto così e basta. Tutto qua. Ciao Eugenio, allora, dopo tanto ci sentiamo. Sì, vabbè, ero un portatore, se la mia sorella, e tu hai, insomma, la vado a farmi in giretto. Così almeno sento bene gli amici, no? A Giulio soprattutto. Riprendi Giulio. Ok, vai. Caro Gigi, intanto. Beh, adesso io ti sento proprio a bomba, proprio sparato. Adesso sei tu e sono io anche. Inteso come trasmissione, sia da entrambe le parti. Va bene così. Oi. Riprendi oggi, fatti sentire ancora una volta, 3300, allora tu sei proprio, sei già ricco allora, di idee però, Fuori frequenza, no, fuori frequenza, no, adesso no, sto andando con l'avvocato, non può essere fuori frequenza. E tu che non ti sei sintonizzato bene, prova a toccare il corse, come si chiama, e vedrai che sintonizzi meglio. Pure, ma te l'hanno tagliata come? A fette te l'hanno tagliata, aspetta fino, come te l'hanno tagliata? Che bagari, ora te lo comunque, e ti diano quella cifra. Avanti qua. Forse sembri appena appena saturo, Giulio. Non ho tanto stasera, forse si riferisce a quello, Eugenio. Mi avete chiamato, mi sono tanto secco. Allora ho fatto il microfono, così ti va meglio oggi, così bene ti va. Sì, vabbè, perché sono sul baracchino, dai, sono un baracchino vecchio, perciò accontentati di questo, stiamo bene. Sto uscendo con un baracchino, un 360 Superstar di vecchissima data, con l'MB5. Va bene, dai, riprendi. Quanti watt? Ma dovrebbero essere, suppongo, 8, non lo so, 7, 8, per quanto ne so io. Sono tu che, infatti, dovremmo sempre abbassarlo per avere meno watt, intorno ai 5, per dire, perché probabilmente l'effetto sarà quello, perché era stato un po' aperto. Ma secondo la regolazione che mi hanno dato l'avevo fatto, evidentemente è troppo. Sono di più Giulio, secondo me sono di più, sì, no, più di 9,20. Sì, infatti ha ragione Eugenio, sì, leggermente saturino, sono molto di più. No, Marco, claro. No, assolutamente, sono di quel tanto lì, sono a 8, mi ricordo bene, ma dopo regolato intorno a 8, perché ero arrivato anche a 10 e anche a 11, mi sembra un 12 addirittura, ma mi avevano sconsigliato perché dice che era troppo saturo, e allora mi avevo ridotto a 8, e come mi hanno detto di va bene così, e quindi l'ho lasciato, e ora l'avrei messo ancora più basso, perché l'avevo tirato, capito? Non lo so, Marco, tu cosa dici? Secondo me sono più di 10. Il che te l'ha detto di lavarsi le orecchie, Giulio. Come che? Oh, Massimiliano, com'è per te? Io sono già da un bel po' che vi sto ascoltando. Adesso ho avuto l'occasione di entrare per dirtelo. Io sono vicino a te, ma non è poco saturo, è molto molto. Non lo so, però vuole passata parecchio dall'interno con la RAI. Sì, infatti, stavo dicendo che vuole passata dall'interno, certo, quello sì, ma siccome l'avevo fatto, l'avevo regolato con alcune persone tempo fa, l'avevo detto lascia così che va bene, e siccome io non potevo sentire, per cui ho lasciato così come avevo detto, ma evidentemente è troppo. Infatti lo voglio portare domani, se io voglia, lo apro, metto il barometro e il barometro e lo passo a 5, alla sua potenza originale. Così vedremo un po' se migliora anche l'intelligibilità della radio. Mi prendi Massimiliano e fai girare tu, dai. Sì, dai, tanto un saluto di nuovo a tutti, una buona sera. E se lo porti anche a 3,5 va bene lo stesso. Tanto con le radio quelle lì vanno bene. Allora, riprendi Marco. Sì, mi ero allontanato un attimo, mi ero in cucina. Sì, originaria era 4, l'ho trovato, ma anche a 5 dovrebbe andare bene. Poi vedi tu già. diciamo che ce la metti a 4, magari ti rotti meglio anche certe scarpette, vedi? Le 4 era quello originale. Anche perché quelli apparati, scusa, perché quelli apparati devono essere limpidi, devono uscire bene, quillanti insomma, devono uscire bene, non così, dai. Oh, ciao Siri, però io ho notato una cosa, no, io mi sono accorto poc'anzi che stava saturando parecchio, però Massimo, ho notato una cosa, non so se l'hai notato anche tu, visto che eri in ascolto, inizialmente non stava saturando, e poi quando magari la radio scalda, non lo so, questo l'ho notato io, perché inizialmente c'era una leggera compressione, però era molto più squillante la voce, Giulio. Poi adesso con l'andare delle ore la radio è iniziata a saturare molto, capito? Non vorrei che ci sia qualche altra cosa. Ma non è, scusate Marco, adesso ho cambiato il microfono, non è invece che si sia scaricato un po' la batteria, perché ho tanto tempo senza no, no. Un paio di mesi. Ma è saturo, Con il suo parere della batteria. Adesso ho cambiato il microfono. Basti vedere, come mi senti adesso? No, è peggiorato, giuro. Addirittura, vuol dire che questo sarà facile. Va bene, va. Vedremo, lo vedremo, va bene, risolto come prima. Scusa che ho sbagliato il microfono, c'è 2,60 vicini. No, no, no, Giulio, non è questione, come ho detto proprio Massimiliano. Stai saturando e ti giuro che non me ne ero accorto in un primo momento, e siamo già un po' di ore in radio. Con l'andare delle ore ha peggiorato, poi mi sono allontanato, adesso mi sono accorto che stai saturando proprio, capito? Quindi secondo me non sono arrivato alla radio e c'è qualcosa quando scalda inizia a saturare, come quella di Graziano, mi ricordo, faceva quel difetto, l'accendeva e andava bene, alla poi di un'ora iniziava a saturare la radio. Non so cosa dici, adesso ho passato ancora di corso. Vediamo un po' se riusciamo a mettere la torta. E se non lo metto da parte, io provo un'altra. Avanti, guardi. Sì, no, no, io quando sono passato qui vicino a casa tua, giù, giù non riuscivo neanche a capirti, ed è molto, molto saturo. Vabbè, dai, saranno qualche watt in più, ma già va bene. Ok, dai, sto facendo un giretto, adesso quasi quasi mi vado a Cagliari, prendo il caffè e poi torno indietro. Ciao Massimiliano, allora com'è? Tutto bene? A proposito, Giuseppe? No, non c'è, lo volevo sentire. Lei che mi bruci il baracchino, mi? Guarda che sto venendo sotto casa tua, aspetta, Ah no, ho cambiato strada, porca miseria. E vabbè, dopo, dai, faccio tutto un giro, poi passo sotto casa tua. Non passare sotto qua, che ho già acceso l'amplificatore. Allontanati che ti brucio tutto. Ah, non mi corri che manco il pelo. Guarda che ti brucio tutto. Comunque, dai, io Giuseppe non ho sentito niente oggi. Allora, come? Ma senta, l'avete già sentito? Passo più vicino, Sponzone. Sto vicino, l'avete già sentito qua a Sassari, come arriva? No, io no, non che l'ho sentito gli altri. Meglio, meglio, radio più forte. Allora, già l'avrei voluto sentire qua, come arrivava. Vabbè, dai. Alla prossima. Comunque dovrebbe arrivare molto meglio, no? Arriverà meglio quando faccio a pezzi quel cavo da 75 ohm che c'è, le metto un cavo da 52 ohm, tu vedrai come arriva bene. Ma cosa avete eliminato lì, Claudio? Cosa avete eliminato? Niente, vale. Non ci siamo mai accorti, quindi sto usando un cavo a 75 ohm. Sto usando un cavo a 75 ohm, non a 52, come per se spegne la televisione dal microfono anziché dal telecomando, come fa ad usare un cavo da 75 ohm in 27 se ci vuole un cavo da 52? Ma questi che hanno montato l'antenna l'hanno visto il cavo che è da 52 ohm, che è un cavo di televisione? Certo, no, è possibile. Vabbè, quella GBC, e cosa voglio che capisca? Non capisco niente quelli. Ma se ne è accorto Massimiliano, credimi, perché se non ci fosse stato Massimiliano io me ne sarei andato da lì con questo dubbio, perché non esce come dico io. Massimiliano se ne è accorto Massimiliano stamattina, capito? Stavo facendo un PL, dice sto PL tutto si muove, cioè per forza, se no non entrava dentro, perché quel cavo è più grosso, il connettore dei PL sono per le RG58 o per il 213, per insomma, per i capi grossi, capite? Se ne è accorto Massimiliano. Poi l'ha sbucciato e ha visto il filo centrale proprio come quello del televisore rigido, capito? Quello è un cavo da 75 ohm. Quindi adesso devo comprare il cavo, tanto sono in ferie, quindi posso salire anche di mattina. Aspetto magari che ci abbia una giornata libera Massimiliano per così un riposo settimanale, saliamo e glielo facciamo, capito? E glielo facciamo, cambio il cavo, metto il PL nuovo, metto il 58, ce ne vogliono 15 metri, quindi è pochissima dispersione e vedrai come esce bene, perché c'è una radio favolosa, adesso lo sento bene di radio, lo sentiamo bene a Sassari, capito? Però per come ci allineare, per come è organizzato, deve uscire una bomba da lì, ma stai scherzando, a prescindere dall'antenna. E il cavo che è in contratto proprio, non serve a niente il cavo, capito? Tutto lì il problema va lì. Altri problemi non ne ha Giuseppe. Oh Claudio, ma il cavo che ha Giuseppe da 75 anni, com'è bianco? No, è nero, ce l'ho anche io nero, ne ho una matassa da 20 metri, sono cavi satellitari quelli, è nero, che mi aveva lasciato quello di coso, cioè la guai non era, mi aveva lasciato quello di Polotto quando hanno messo la parabola, è uguale a quello che hanno messo nella parabola, preciso identico, guarda, domani vado su a controllare, è uguale a quello della parabola, preciso identico, nero, però è un cavo satellitare da 75 ohm. Aspetta, mai visto nero, mai, mai, mai. Mi dillo Massimiliano, Massimiliano, riprendi. No, non fa, guarda, c'è tanto di quel casino con la casa, non si compra niente. Ho mollato un PL, l'ho appoggiato lì a un pezzettino di piastrina che c'ha collegata in un tavolino che ha scintillato, poi me la rende ricossa. Tu figura delle RF che c'è in tutto quel sistema, ho detto che prendo la forbice, ne taglio tutto e rifaccio tutto da capo come deve essere fatto e non si tocca più. No, tocca. Si tocca, è tanto. Sì, sì, bella la radio, ha sentito anche Marco, sì, bella la radio Massimiliano, il segnale è rimasto invariato, ma la radio è abbastanza forte, è chiara, cioè supera bene il QRM, se c'è QRM può parlare tranquillamente anche in lontananza, rimbomba molto, infatti l'ho detto avvicinati un po' Giuseppe, però almeno la radio è molto bella, quindi adesso il microfono c'è, il lineare c'è, perché è un lineare alla grande, non è un giocattolo, la radio ce l'ha, adesso si tratta solo di cambiare il cavo, l'antenna è nuova e tu vedrai come arriva a Sassi. Provate a chiamarlo. Giuseppe, ci sei? Ecco, lo voglio sentire. Ma non sovramodulate però, cosa hai detto Giuseppe? Cosa devi fare? Purtroppo non puoi aggiungere niente Giuseppe, non è colpa tua. Non è colpa tua, tu vedrai che già ti metto a posto io, non ti preoccupare. C'è Valerio che ti voleva salutare, non so se ti sente, Valerio lo senti? No, per il momento non lo sento, devo superare dove abiti tu, vado un po' più su e poi vedo un po' se lo ascolto, dai. Ma è agganciato Giuseppe adesso? Non lo so, agganciato sei Giuseppe? Quinta marcia. Cosa, ma sì? Ma lo metto in quinta marcia. Mettilo in quinta Giuseppe, intanto le stazionarie non variano, mettilo in quinta. Tu hai passato parecchio di segnale qua comunque. Ma la radio com'è? Sì, la radio è bella forte. E sono sicuro ha passato il segnale perché le sta portando via il segnale anche quel rosmetro che ci ha collegato. Sì, Massimiliano, è chiaro. Cioè sta entrando dall'antenna un cavo da 20 metri, da 75 ohm, con gli spezzoni tutti da 52 ohm. C'è una dispersione allucinante. Non è un lavoro quello. Se avessi avuto il cavo del 1058 nuovo da 52 ohm, come abbiamo messo tutto a posto noi, avresti visto come arrivava. Ma stai scherzando. Chi a me, Alghero qua, con la potenza che sta usando lui, mi dice, Valerio mi arriva, c'è la stessa potenza di Valerio, orientativamente, a prescindere dal posto, a prescindere dall'antenna, ma se Valerio mi arriva a 9.15 quando è agganciato, lui vuoi che non mi arrivi almeno a 9.10, lei 8.5, non... capito, 8.5 con quella potenza, non esiste assolutamente, proprio è il cavo che le sta portando via tutta la potenza, tutto. Ma no, vabbè, il radio ha, come si dice, ha migliorato alla grande, ma un bel, a me adesso si sente, anzi per me potrebbe anche leggermente aumentare il potenziometro. No, ho provato a fargli aumentare, non si capisce niente, troppo forte. sia perché con la BB4 con la radio funziona così. Io non l'ho mai provata, perché l'hai visto, c'era il connettore Kenwood, quindi la usavo, cioè con il connettore Yaesu la usavo con 920 ed era favoloso. Col baracchino non l'ho mai usata, capito? Neanche col DAC non l'ho mai usato, e c'era il connettore Yaesu lì. Quindi non mi sono mai reso conto che andasse così, così forte veramente. Ma lei sei in zona, prova a chiamarlo per se lo senti. No, proprio sotto casa tua. Attenzione Giuseppe, mi ascolti? Sento che sta parlando sotto sotto ma non arriva. Ma com'è possibile che non arriva? Sono già in alto qua a me, non so io. Il cavo è tutto a me. Non ho capito bene. Io sto salendo. E ti ho sentito, ciao Giuseppe, come va? Tutto bene? La modocchia adesso la sento, è bella amplificata, va bene, dai. Vedrai, quando mettiamo a posto anche il cavo lo sentirei ancora meglio. Sì, ha migliorato tantissimo, ma non c'erano dubbi che col microfono a tavolo migliorasse. Il problema è togliere quella schifetta di cavo, guarda, mamma, ti sto dicendo, io sarei andato via se ero solo dal ghero col dubbio come mai non esce come dico io, perché è impossibile con quella potenza, con quella radio così come organizzato. Se ne è accorto Massimiliano, capito? Meno male, adesso mettiamo il cavo nuovo, facciamo tutti gli spettroni nuovi, regolarate, con la sua misura giusta, capito? Tutti i spettroni, uno addirittura da 30 cm, l'altro da 40, l'altro da 60, no? Calcoliamo tutto, facciamo tutto bene, spettroni suoi, fatti bene, tutto della stessa misura del cavo, stesso cavo, PL nuovi, e poi vedrai, ne riparliamo. Ne riparliamo. Faccio girare, Valè. Avanti, Giulio. Giulio? Forse sta cambiando la radio. Riprendi tu, Massimo. No, comunque la radio ha migliorato. Il segnale è abbassato parecchio. Parecchio, perché mi arriva a Santiago 5, a volte sale a 6, a volte si a mezzo fuori scende. E vabbè. L'importante è che la radio ha migliorato. Quando si cambierà quel capo, poi vedrai che la cosa va bene. Ok, mercoledì è festa, così è? Sì, mercoledì è festa. Sono tutti santi. E poi c'è il 2 che sono i morti, la festa di Marco. Ti vedi? Vabbè, io comunque lavoro, mercoledì non lavoro. Non lavori mercoledì? Caspita. Beh, segnate il rosso, sono i santi. E anche io non lavoro. Se me lo penso non mi manda fuori cavo l'antenna. No, non ci sto pensando neanche minimamente, adesso mi devo riposare qualche giorno, poi mi organizzo, di mattina vado, compro il cavo, faccio tutto quello che c'era da fare, poi le faccio la fattura a Giuseppe, andiamo e piattiamo tutto, capito? Cosa ridi, Valè? Cosa ridi? Perché non lo sai che lui è nato il 2 di novembre, per quello è un morto, mi Marco. No, veramente, non lo sapevo. No, io sono nato ad agosto, fine agosto. Non c'entra niente, anche Natalino è nato ad agosto. Non c'entra niente, però la tua decorrenza da anni risulta sempre il 2 novembre. Dolcetto scherzetto, sì, ti piace. Ma perché non ti inviti, scusa, e vai per le case? Lo dicono dolcetto scherzetto, no, lì di Napoli. Aspetta che non mi scende la roba da mangiare. Ma voglio riprendere il tuo cavo, qua. Cosa, ma sì? Il cavo, ma voglio riprendere. Adesso vediamo se ti male lo compro. Settimane lo compro, ma si via, non sto lì a girarmi le scatole, vado a Fusaro, vediamo quanto mi fa, questo, se no scendo, l'avevi detto tu, giù, ti ricordi, ma l'avevi detto, era a basso prezzo lì il Mild, vado lì, ne prendo 25 metri, quello che usiamo, e il resto lo usiamo tutto a fare PL, a fare spezzoni. Ma lì ha chiuso qua, sono Fusaro, va. Ha chiuso lì Melchiori. Chiusa minchione, esce via, per carità, ti fidi che hanno il voto, prima una gana di travagliare, io quando entravo in quel negozio mi veniva disperazione, tutto al buio, un giorno gli ho detto a Simone, ma voi che entri con la pila qua dentro, ma non si vede, ma se male accendi le luci, ma le accendi le luci, cazzo, ma roba da matti, per carità di Dio, tutto al buio il negozio. C'è Santa Maria Madre Nostra, e vabbè andrò a Fusaro, la GBC, da qualche parte lo prendo, capito? Facciamo uno su di PL, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 PL nuovi, e si fa tutto nuovo. No, perché se c'hai il cavo si fa in fretta a piazzare tutto, capito? Togli un euro, mentre l'altro si fa in fretta. Adesso vediamo se riesciamo a andarci di nuovo domenica mattina, non sono sicuro al 100%, però se ci abbiamo tutto facciamo una cosa nuova, non è che faccio tutto di me. Ma sì, mi ce l'ho abbassare l'antenna a me, sì, vale. Come abbassare l'antenna? Ecco, ma cazzo ti appendi sopra, ma la vita che è a 4 metri? Ma non c'è una scala lì su, aspetta. Una scala, ne so che sai io. Giuseppe, come te l'hanno abbassata l'antenna a te? Allora, rimaniamo d'accordo così, come siamo rimasti d'accordo stamattina. Vai alla GBC, prendi 25 metri di cavo, 6 PL, se ce li hanno, se non ce li hanno chiami a me e te li prendo io. Ok, ma il cavo ce l'hanno loro, RG58, le fai attaccare in testata, in una punta del cavo, le fai già attaccare il PL, ok? Le fai già attaccare il PL, li fai salire su con la scala, le fai togliere quello, le fai agganciare il PL nuovo e il cavo in bando e non moduli sino a quando non arrivo io. Io ti sento, vai. Questa me l'ha raccontata mia madre una volta. Allora aspetta che Valerio mi ha dato un input. Come vale? Alla GBC di Alghero non c'è né RG58 né PL. Quindi Massimiliano, come facciamo? Ci vuole una scala di quelle, come si chiama? Una scala di quelle retraibili, da quanti metri vuole? Ma lui non ce l'ha una scala lì. Penso di sì, tu ce l'hai una scala lì che possiamo mettere dal poggiolo a arrivare a attaccare il PL? Ce l'hanno le RG58? Sei sicuro? Allora informati e poi mi chiami e mi dici che cosa hanno, perché io devo arrivare lì, Giuseppe, e devo trovare il cavo e i PL, se no devo comprarli a Sassari, ok? In ogni caso, tu hai detto che chiamavi loro e ti facevi agganciare il cavo, giusto? Ecco, allora domani sarai più preciso, mi dici quello che ti dicono loro, quello che possono fare loro e quello che ti sto chiedendo io di farle fare, però non che facciano a modo loro. Devono togliermi quel cavo, sganciarlo, tagliarlo, fare il cacchio che vogliono, attaccarmi il PL con l'RG 58 ben saldato, ok, e fare un simmetrizzatore, ok, almeno due giri di RC 58 fascettato sotto l'antenna e poi mi devi buttare il cavo giù, basta, non devono fare altro. Spero che sia stato molto chiaro, ok? Perché così noi con Massimiliano facciamo il resto, va bene? Quando è che glielo fa questo lavoro? Ha detto che lui lunedì ci darà risposta più precisa, perché andrà alla GBC, chiederà queste cose che le abbiamo chiesto noi, 25 metri di RG 58 con 6 PL, di cui uno va già saldato in punta al cavo e attaccato all'antenna. Basta, non deve fare altro. Dopodiché Massimiliano, noi ci organizziamo di nuovo, andiamo, poi velocemente e facciamo quello che dobbiamo fare e poi vedrai i risultati che ottiene con quell'amplificatore che c'ha, quella radio e il microfono, perché è impossibile uscire a quei livelli, è impossibile veramente. Va bene, ok. Non aveva strumento, ma Smiglia, quanto c'ha di stazionare col CN 801? Con lo scala. C'ha 4 di stazionarie, 4. Siamo riusciti a passarle passando direttamente sull'amplificatore, che fortunatamente quando attacca l'amplificatore, infatti la tottina l'ho sempre attaccato, abbassa potenza, ma almeno ti abbassa le stazionali, scendono a 1,6, 1,7. Ma quella è stata una curiosità, un po' che ho sentito che da piedi uscivo 2 centimetri, così era bastante. Sì, sì, io ho attaccato un piede che ci aveva agganciato l'idealetto e lui c'ha una specie di piatta avvitata su un banco in legno. Poi ha toccato quella piastra in legno che ha cominciato a scintillare. C'è presente quando tocchi positivo e negativo di una batteria, così scintillava. Senti, ascolta, ho qua. Devi controllare questa cosa qua. Lui, cosa c'ha? La antenna di un buco e lo stesso palo, confermi? Cosa, Giù? Ho detto che ha l'antenna di un buco e lo stesso palo. E allora? Allora, controlla, ossia che l'antenna di un buco. Mandi corrente, perché come fa? Se stacchi il piede ad avere corrente? È assurdo, evidentemente ci sarà qualche distorsione nell'antenna di TV che attraverso il palo, attraverso l'antenna, e poi ecco che avete verificato questo sito mio, come stava dicendo un Massimiliano dal PN. Probabilmente c'è anche qualche distorsione lì, dal Mario che sono io, dall'antenna stessa, dal miscelatore, dall'amplificatore soprattutto, che sia amplificatore, ma anche se non c'è l'amplificatore, potrebbe essere addirittura la televisione che ha il condensatore d'ingresso bruciato, staccato, la televisione funziona sempre, però se manda corrente, si manda in antenna, e poi c'è da controllare anche cose così, forse anche un tester forse, c'è da controllare tutto, ovunque. Sì, e certo avevo portato il test stamattina, non ce l'avevamo perché sembrava una cosa facile, poi abbiamo riscontrato mille problemi. Sì, ma non è il PL che era attaccato al baracchino, ok, era il PL che era attaccato al lineare, l'altro lineare, non quello nuovo che ha preso, l'altro, quello piccolino. Aveva un ingrossamento di fili lì, adesso ti ripeto, io ne stacco tutto, non voglio vedere niente, voglio vedere il lineare, il baracchino e il microfono, né alimentatori né niente, perché non se ne fa niente, nulla, capito? Niente se ne fa, perché la radio è 220, qui non si fa nulla, voglio vedere baracchino, lineare, rosmetro e microfono, boh, e basta, il resto faccio tutto nuovo con Massimiliano, tutto. Ok, no, perché mi ha fatto venire il dubbio, ma che se pensione la PL e insomma qualche cosa c'è, qualche avaria, che si deve vedere il secondo, dopo dai, io mi saluto, per quanto succede, sentiamo, ciao Massimiliano, ciao Claudio, ciao Valerio, ciao Marco e Natalino che hanno ascolto, saluto a tutti, dai, ci sentiamo, ascolto fino a due, poi ci vedo definitivamente, ti prendi pure Marco, dai. Dove stai andando, Giulio? Vado giù perché è la tangente a casa, dai. Via. Ciao Giulio, ci sentiamo, dai. Credo che avessi il vecchio orario mio. E che non c'ero le 8 per mangiare. No, sono le 7 adesso, dai. Va bene, buona serata Giulio, dai. Domani, dai Claudio. Ciao Giulio, ci sentiamo domani, dai. Alla prossima, grazie di questo. Vai Massimiliano. Sì, ciao Giulio, buona serata e buon divertimento. Vai Natalia. Ciao Giulio, alle prossime, buon proseguo. Vai Valè. Giulio, prossima, sera. Ok, di nuovo ciao a tutti, buonanotte, dai, ci sentiamo. Grazie a tutti per la chiacchierata. Alle prossime, ciao ciao, aspetta più veloci. Organizzato. Sì, già organizzato. Già organizzato. Io adesso ho la possibilità di muovermi anche di mattina e quindi già organizzato. Tutto va a rifare lì, vale. Tutto va a rifare, corretto, no? Se lui vuole uscire bene, deve lasciare lobbistica, capito? Non devi toccare nuda, perché le fascetto tutto lì, guarda, non tocca più niente. Tutto, piede nuove, tutto ben fascettato, tutto a posto. Senza baracchini, baracchinetti, baracchini vecchi dentro l'armadio, toccato di ferraglia, capito? Baracchino, voglio avere baracchino, lineare, microfono, rosmetro, boh, non serve più niente lì. Che semplice di così. Ti ho detto baracchino 220, l'hai visto. C'ha l'MB più 4 che gli ha collegato stamattina, Massimiliano, il lineare e il rosmetro, basta. Non ci vuole niente. Cosa ci vuole? Cosa sono tutti i fili che entrano, escono, commutatore? Ma cazzo devi commutare, non devi commutare niente. Nulla. Un alimentatore per accendere il lineareto, per accendere la lucetta, per accendere il LED. Anzi, la peduta un gomolo, tutto dentro l'armadio. Perché mi carico tutto in macchina, non lascio più niente lì. No, ma non è così, Claudio. Non c'entra niente, perché se lui la vuole usare l'altra radio, si può fare, però perché io il commutatore ce l'ho, io quando attacco, cioè non c'ho stazionaria, però l'impianto è fatto come deve essere fatto, capito? Lo ti voglio dire. Però, cioè, tenere un alimentatore a 25 ampere per una lucettina con un rosmetro, non mi va a candela, ogni tanto se lo attacca per controllarsi in stazionaria, ma quello non c'entra niente, lo siamo attaccato. Esatto, faremo come stai dicendo tu. Vabbè, l'usatore vuole usare, ok, io una volta che l'impianto è finito e che è a posto e controllo e stazionare che non c'è niente, le riattacco l'antenna al commutatore e lui può commutare un baracchino, il baracchino grande o il baracchino piccolo, però deve essere tutto in ordine. Quella piastra in ferro che ha messo a cosa serve? Tutti quei collegamenti dietro che ci sono a cosa servono? Allora, oltre che sono tutti fili corti corti, non puoi muovere niente, prima cosa. Se lui, martedì o domani, si fa fare questa cosa, una volata al volo si può fare, mi collegarle un PL e fare due spezzoni, ce la possiamo fare. Ma sono d'accordissimo con te, sono disposto anche ad andare il mercoledì, io. Andiamo a pigliarti un caffè Alghero e ce ne scendiamo. Capito? Se tu, Giuseppe, hai sentito Massimiliano Zoletto, se tu domani vai alla GBC e ti fai fare questo lavoro subito, urgente, urgente, noi mercoledì saliamo velocemente, ti colleghiamo tutto mi. No, tu non stai facendo TV, stai spegnendo la televisione, che è diverso. Cazzo, vuole spegnere la televisione dal microfono, non usa telecomando. Sì, già me l'ha detto, sì. Io, dimmi tu. Massimiliano, quando l'ho visto, ho detto, oh, non abbiamo mai visto una cosa del genere, io lo sapevo già, capì? Perché quel capo, essendo un capo TV, camminando a fianco all'altro della TV, poi avendo le antenne sotto, a 20 cm di antenna in baracchino, e lui ti viene giù dalla televisione, tu vedrai che non fa manco più TV, perché quelle antenne vanno sistemate meglio, il lavoro va fatto meglio, ma meglio veramente. Non è una cosa da fare, assolutamente. Non parlare, Giuseppe, se no tuo nipote le stacca la luce. Ascolta e basta, intanto fra un po' chiudiamo. Ma resto un po' col cane, che sono tutta la sera seduto qua. Va bene, va bene. Sì, Massimiliano, adesso vediamo. Lunedì mi dirà che cosa è riuscito a fare. Se riesce a organizzarsi in settimana, andiamoglielo facciamo. Anche se andiamo a fine settimana, non c'entra niente. Facciamo come stamattina, andiamo a prenderci un caffè veloce ad Alghero, lì dove siamo andati stamattina. 10 minuti, perché se lui mi ci fa trovare tutto pronto, fare due ispezioni, collegare tutto, mettere tutto a posto, ci vuole una mezz'oretta e abbiamo fatto. Sì, per quello. No, ma lì sto vedendo perché. Cioè, tu basta che, senza neanche lineare, basta che tu schiacci il PTT del microfono, la televisione, non è che la bloccano. Diventa proprio nera completamente. Quindi la spegne, perché ho visto che si spegne e poi si torna a accendere da sola. Oh! Ehi! Allora, quando ero in Piale Mameli, no? Con la Gran Pegna, avevo avuto un B30 della ZG, B30, appena comprato, attaccato, c'era la TV accesa, primi da portarsi, dun, schermo nero, ma non solo a me, a tutta Pianizza, io ero più in basso, mi era a me, tutta Pianizza è disturbata. Ecco perché le scoppolze era passata qui, capito? Qui, però io avevo la residenza qui e poi ero domiciliato qui alle Mameli. Ma io, guarda Marco, ti devo dire la verità, io l'ho usata per anni la Gran Play e ci avevo, e l'avevo messa sopra la televisione, cioè sopra l'antenna TV. A fianco ci avevo altre due antenne di mio padre, io non ho mai fatto TV, mai. E il radiale scendeva in mezzo tirano avanti, non disturbavo lì. Ma colpi 30, proprio schermo nero, mi c'era l'analogico all'epoca, schermo nero li faceva, era una cosa terrificante, già starati di fabbrica, tutti starati erano. Colpi 30, vabbè, un giocattolino, Maglia. Dai, continuate, sto mangiando, dai. Ehi, ehi, andate lì, riprendi, niente da fare, va. Ma Valeria non c'è più. Ah, ok, va, va bene, va bene. Sì, una volta che... No, quello che volevo chiedere io è a Giuseppe, però non so se mi ascolta. Se quando vengono quelli della GBC, quell'antenna la possono tirare leggermente più su. Una metrata dall'antenna TV, ecco, parlo. Fatti voi. Ma penso di sì, penso di sì. No, ma anche lasciandola così, Massimi, sai cosa si può dire? Te lo chiamo io a Giuseppe Altrefo. Di farsela abbassare leggermente l'antenna TV. Di farsela abbassare leggermente, almeno un 30-40 centimetri, perché hai visto che ha filo del dove attacca il PL. Ehi, quello volevo chiedere. No, è messa le meglio tirare sull'antenna. L'antenna del baracchino, scusa. Più alta è meglio lavora quella, lo sai, no? Non so se c'è abbastanza palo, se il palo arriva sino a lì. Ho capito, perché quell'antenna ha visto come attaccata a cavallotti, quindi attaccata all'ultimo pezzo del tubo e poi l'antenna TV con i cavallotti sono attaccati proprio sotto. Abbassala quell'antenna, no? L'antenna TV tienimi a 30, 40, 50 centimetri, cosa le fa? Non cambia niente se sono puntate bene. No, non cambia nulla, però sarebbe meglio sollevare più a lì, capito? Tanto se la solleva di anche 80, un metro, va bene lo stesso, non è che cambia. O solleva quella, o abbassa quella TV. Prova a dirglielo a vedere, perché io quel tubo non l'ho mai visto, insomma è salito su, capito? Io se fossi stato in servizio avremmo fatto una cosa regolare, perché anziché scendere con la furgonetta, sarei sceso con Delli, ci abbiamo Delli nuovo, con cassone corto, per caricato la scala, quella sono due, sono quattro elementi da 2 metri l'uno, 2, 4, 6, 8 metri, quindi bella, con le staffe sotto che si regolano con il tipo trapattello, quella lì l'avrei messa nel poggiolo, è appoggiata al tubo, avrei staccato, già preparato tutto, avrei staccato l'antenna, il cavo, avrei collegato quello nuovo, fascettato, avrei abbassato tutto e eravamo a posto. Il cerchietto fagli fare. No, scimmetrizzatore devono fare. Non devono fare scimmetrizzatore, perché è molto importante avere scimmetrizzatore lì. Ci vuole, non c'è niente da fare, perché con l'amplificatore è meglio che ci sia scimmetrizzatore. Non è che siamo incompetenti, ma chi sono vale questi che stanno alla GBC? Perché noi qua alla GBC di Sassari, Tonino è abbastanza competente in queste cose. Se poi parliamo di fusare, Antonello è uno dei più bravi antenisti che c'è a Sassari, mi quello che è il commesso che c'è alla GBC. Ah, da fusare, ma questi che sono alla GBC cosa sono, commessi o carriaggi? Ah, non te lo so dire, no, loro fanno solamente antenne satellitari, capito? Antenne TV e basta, non nulla. C'era prima Farinelli, ma ha venduto vecchio tempo fa, poi lo c'era, dai. Fusaro non si discute, ma Antonello, il commesso che c'era a Fusaro, piazza antenne, se ne intende, fa di tutto, capito? E sa, quando parli con lui ti risponde in maniera equa, in maniera seria, no? Questi che vanno a montare un'antenna di un baracchino non si accorgono che stanno avvitando un PL con un cavo da 75 ohm, boh, sono ciechi o proprio sono incompetenti al massimo, capito? Perché, ti ripeto, io quando l'ho svitato dal commutatore d'antenna non me ne sono manco accorto, l'ho passato a Massimiliano, vabbè, senza Piccitti, e Massimiliano subito ha detto questo cavo non va bene, come non va bene, vecchio, no, che un cavo di televisione, perché se ne è accorto alla grande, capito? Io se non stavo attento non me ne sarei accorto, e me ne sarei andato col dubbio, non capendo come mai il problema c'era, capito? Quindi fortunatamente sono andato con Massimiliano. No, ma qua io mi stai facendo tutto curioso, questi qua lanciato il PL su all'antenna. Aspettali, infatti sto dicendo come hanno fatto, voglio capire come è agganciato il PL su. Se quel PL di su è uguale a quello di giù, il problema è doppio, è sia su che giù. È certo che è doppio, per forza, e loro sicuramente hanno sbucciato così, giusto per attaccare la barca. Se avete visto la forza che ho fatto io, ho tagliato anche un po' di gomma per farlo entrare, ed è entrato per appena. No, secondo me il problema è più su che giù, perché adesso giù all'85% può andare, ma su, per me, casa, non ce n'è dentro quel PL, sta uscendo solo col centrale. E allora? Abbiamo già capito, ma c'è un'idea, perché loro non hanno fatto forza per attaccare il PL, se l'hanno fatto anche o l'hanno staccato, magari si è mollato pure dall'antenna vecchia, o l'hanno, di quanto era magari stretto, di quanti anni c'era, l'hanno staccato con la pinza, le mole ci aiuta. Attaccaglielo così, già va bene lo stesso. Hanno buttato un pezzino trasolante, magari, capite? È quello che io voglio capire. Il problema è su, non giù. Perché adesso giù, ti ripeto, ribadisco, al 95% l'hai sistemato. Ma il problema è su, che noi non l'abbiamo visto. Ed è come stai dicendo tu. Eh beh, certo, se giù non ce n'era problema adesso, ultimamente. Dopo che l'abbiamo fatto, ma è su, io voglio capire su come. Adesso poi Giuseppe vuole richiamare magari le stesse persone e magari le rifanno male di nuovo il PL. È un casino, ma secondo me se c'è scale così del genere, ma tu io dico brutto e brutto. Ma lei, tu non ce la puoi prestare una scala ad Alghero? Non c'è qualcuno che ci presta una scala di quelle a innesto da 2 metri a 2 metri, no? Dal Poggiolo, che ti ricordi tu, dal Poggiolo, arrivare alla, sopra la Mantovana ci arriva, anche al tubo, appoggiandola al tubo. Ah, ci sono i bulloni per far scendere il tubo. Ehi, ma io ti dico una cosa, Valise, saliamo tutte e due, poi porto sulla scala, l'appoggio al tubo. Claudio, me la tieni un attimino, come abbiamo fatto a casa mia, mio... Mi tiene la scala attaccata al tubo, sgancio il PL, glielo preparo, faccio tutto, due fascette, faccio 2 minuti ci vuole. Lì a scendere, mollare staffe, staffettine, prendo la scala, appoggio al tubo, salgo, attacco il PL e l'ha fatto. Sono le tegole, Massimiliano. Non li conosci bene come? E lo so che sia all'altezza di poterlo fare, Massimiliano, ma sia anche pesante, e col peso lì e la scala appoggiata sfasciamo le tegole. La nipote ci rompe le corna. Capito mio? Ecco perché voglio stare dicendo una cosa più pulita è perdere 10 minuti in più e far scendere, porto le chiavi a cricchetto, sento stare lì la cassetta delle chiavi a cricchetto, che ce le ho tutte dalla alla Z, abbasso il tubo, le attacco il PL, ritiro sul tubo e me ne paro, cosa non aggiudi già di duca nulla, non me ne affrutti nulla a vedere l'antenna TV, capito? L'antenna TV chiama il tecnico, se le fa vedere, a me mi interessa l'antenna del baracchino, che sia fatta bene, capito? Che sia fatta bene, Massimiliano, così dal Poggio lo stesso si lavora in sicurezza, le fai il simmetrizzatore, glielo fascetti, in altrosolante non ne voglio vedere io, c'ho le fascette, si mette le fascette nel cavo, non l'altrosolante, l'altrosolante con la media del tempo si stacca. E io ce le faccio io, voglio le occhi io. No, perché, ti ripeto, se il problema c'era giù, sicuramente c'è anche su. Però, oltretutto, se lui dovesse richiamare di nuovo questi qua, questi non sanno fare il lavoro. Se Valerio mi sta dicendo così, tu... No, no, no, noi quando dobbiamo andare, chiamiamo a Valerio che è disponibile, ci facciamo prestare la scala. Ok, tanto andiamo con la 600, ci facciamo prestare la scala. La mettiamo sopra al cappotto, già a casa di Valerio lì e 5 minuti sta fottuta, la mantieni con la mano piano piano e andiamo, facciamo tutto noi, Massimiliano, non deve chiamare nessuno lui. Mi stai ascoltando, Don Bacchi? Non chiamare a nessuno, ci arrangiamo noi. No, Giuseppe, ha ragione Massimiliano, ascoltami quello che ti sto dicendo, non prendere decisioni, ascolta me, non li chiamare, non li chiamare, ok? Si fa tutto qua, il cavo lo compro io, i PL li compro io, la scala ce la presta Valerio, il lavoro ce lo facciamo noi, perché siamo all'altezza di farlo meglio di loro, perché se mi sbagliano il connettore PL, siamo punto e a capo. Non dobbiamo aspettare anche di più di 24 ore, non ti preoccupare. Tu vai lì e fai le domande che vuoi, non li mandare a fare nessun lavoro, perché a noi, come ha detto Massimiliano, ci serviva solo la scala. La scala ce l'ha Valerio, ce la facciamo prestare da Valerio, ok? Viene Valerio e ci porta la scala e noi facciamo un capolavoro, non un lavoro, un capolavoro. Ma scoprendi. E va bene, ok, non parlare, devi solo ascoltare, non parlare, poi ci sentiamo al telefono, tu vai domani, dopodomani, vai quando ti piace la GBC, basta che io non me li trovi lì, perché al calcio in culo ci escono dentro quel palazzo incendiato, mi. Perché Massimiliano è peggio di me, avere pisquani che si mettono, si propongono a fare lavori, a prendere in giro la gente, ma stiamo scherzando, ce la facciamo noi il lavoro con Massimiliano, non ti preoccupare, e viene anche Valerio, perché mi porta la scala e facciamo un capolavoro e basta, non ne voglio più sentire parlare di questo cazzo di antenna, deve essere fatta una volta per sempre. Col chi va? Se lo facciamo noi, non solo come quelli della CPC, perché quelli magari arrivano lì, scendono l'antenna e il PL magari lo attaccano così come ci trova Carlona, non li mettono il grasso, non li mettono un po' di nastro, non li mettono niente, tirano su tanto e dice, dicono una puttinuta, tanto sul tetto non lo vedo. Dicendo dal cavo, attacchi giù e magari c'è lo stesso problema, capito? Certo che sì, Massimiliano, noi siamo CB e sappiamo quello che dobbiamo fare, ok? Anche perché le antenne che ho piazzato io, guarda con la regione più room, per 20 anni avessi mai avuto problemi, i radiali ne sono caggiuti, ma problema non ha mai avuto. E tutte le altre la stessa cosa, la mia. Ma te scherzo, il lavoro l'ho fatto bene, quello l'ho fatto a cazzo di cane, per non dire altro. Capito? Perché hai ragione tu, il problema che c'era giù, c'è anche su, è lì adesso il problema, perché giù è risolto momentaneamente, provvisoriamente, ma su il problema c'è, come se c'è, perché lì calza non ce n'è, capito? Vale, perché sto uscendo così male, perché sto uscendo basso, perché c'è stazionaria, perché su loro non l'hanno attaccato il PL come deve essere attaccato, come ha fatto Massimiliano, che l'ho visto fare forza per cercare di farle fare massa, lì li hanno puntato e bastami. Io vabbè, Valerio è andato da Marco. Ok, vabbè, comunque rimaniamo d'accordo così, poi io domani lo chiamo a Giuseppe, mi saprà dire che cosa ha fatto e poi ci mettiamo d'accordo noi, dai. Ok, dai. Io mi preparo, vado a portare il cane, anche lui è ancora orario vecchio, non vorrei che. Poverino, sempre vai e vieni, magari sta facendo la pipì, eh. Signori, vi saluto, ci sentiamo dopo se ci siete, altrimenti a domani, ok? Ciao Giuseppe, non rispondere, ciao Natalino, Marco, Valerio, chiunque fosse sul 10, scusate tutti questi ping e pong, ma è necessario, Giuseppe deve uscire bene dal ghetto perché ci tengo tantissimo. Massimi, a te il mic, a dopo se ci sei, altrimenti a domani, ok? No, anche io vado, anche io chiudo, sicuramente a domani, no? Ci sentiamo, buona passeggiata Filippo, saluto a tutti i circolari, quelli del canale 10 e anche quelli che sicuramente sono facendo gli orecchie pelosi ascoltando. E buona serata a tutti, dai, non riprendo più neanche io, vediamo un po', rilascia qualcuno se vuole riprendere, per il saluto e ci sentiamo alle prossime, ciao. Ciao Massimiliano, ciao Claudio, se ci sono dopo ci facciamo due chiacchiere, alle prossime. Ehi, Natali, dai, salgo qui, dopo richiamo, adesso Valerio magari sta parlando con Marco e non riprendono. Ciao a tutti, dai. Ok Massimo, ci aggiorniamo per telefono, dai. Adesso anche di mattina ci possiamo sentire su WhatsApp, intanto io sono in giro. Va bene? Ciao, un abbraccio, grazie di tutto, per oggi, poi già ci aggiorniamo, ciao. Oh genio, ancora sì. Ma io vado a portare il cane. E se non si fa tardi, tu non hai questi problemi, perché c'è il giardino, io purtroppo il giardino non ho, qua a casa già ce l'ho sotto, volevo portare. Va bene, se ci sei ci sentiamo dopo, dai. C'è Natalino, se lo senti, fatti due chiacchiere con lui, ho un quarto d'ora, 20 minuti e sono veramente qua, ciao. Non vedo, ma che vento è? Non sento qua, però oggi, strano. Come mai? Non sento qua io, come mai? C'è la finestra aperta. fare oggi tu? Prova a farlo, a vedere. Gli alberi sono ben alti, forse stanno preparando gli alberi, però le altre volte lo sentivo di più. Babbo, dai, ok, ci sentiamo oggi dopo, dai, ciao. Ciao oggi, se mi ascolti. Basta sono, purtroppo, però non si può fare nulla per il momento. Dai, ci sentiamo oggi che sto chiudendo anche io, là, alle prossime. È meglio così, più di due batte non posso mettere. Dai, sto chiudendo, alle prossime. E chi è? Ehi, saluto. Ah, sono andato a portare il cane. Mamma mia, che radio c'hai. Tutta cupa per la rete, attacca l'FT, attacca. No, è brutta la radio, non ti capisco. Abbassa appena appena. Ehi, così è più comprensibile, se no non ti capisco. Ho detto, tornando a portare il cane, se ci sei ci sentiamo dopo. Lascialo così il microfono, che è più comprensibile, se no è troppo forte. Dai, ci sentiamo dopo, ciao. Oggi a me mi pare più rilevante che mai fare. E oggi?